Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Raccione per cui di Giuseppe Bertolucci con Marina Confalone. Io sono figlia di nessuno. Ragione per cui sono figlia delle soli. Le soli mi hanno cresciuto da quando ebbe i mesi 7 a quando ebbe anni 18. Ragione per cui mi sono acchiappata lo diploma di maestra elementare. Le sole mi hanno imparato a ricamare. Secondo poi, le sole mi hanno imparato che il mondo è fatto a scale. Che c'è sta chi scende e c'è sta chi sale. Ragione per cui io scendo. Tesore, mi hanno imparato pure a leccare la fregna. Sono accese. Ragione per cui tenevo certi pili duri tra i cosci. Come pareva la paglietta delle pendole. La quale puzzava come l'acido fetido. Un giorno ce lo disse a Sor Agnese. Allora, ma no. Allora lei invece mica se lavò, no. Mise sopra fregna sua due cucchiarini da Nutella e disse lecca. E io leccai. Al principio pareva buona la Nutella, che contrariamente era guasta, essendo che era andata male che ci stavano dentro i bachi, certi bachi grassi che io mai più avrei detto così grassi. Cari pensacci, mica sono sicuro se erano bachi della Nutella o bachi della fregna del Sorrentese. Sorrentese era particolare, unico. Sorrentese, quanto che godeva, urlava. Capareva la guerra stellare mondiale di Mazinga. Faceva ripotto con la bocca e pure col culo. Quanto che poteva? Che io mai più ho udito godere a quella maniera. Che ufficialmente quando che uno gode fa mica fa pam pam pam pam pam. Io soggettivamente facevo. Che a me me leccava Concettina, una cieca, che essendo cieca non mi aveva vista mai, voleva che le raccontavo come ero fatta, la giorno per cui le raccontavo che ero buona, la giorno per cui essa ci credeva ciecamente, essendo cieca. Anna 18, sortita al collegio delle sore, col diploma di maestra la mandà. Andate con maestra a un paesino, dove nella tua età ancora sarebbe maestra. Che contrariamente mi chiappai il concetto per motivi di salute, cadenevo l'inseguimento nervoso. Cari bimbi fanciulli, mi piacevano assai. Io intendevo essere istruzione elementare di legge, di scrivere. I bimbi fanciulli amavano me stessa. E io amavo i bimbi fanciulli. E che espressamente, per donna signorina sola, insegnamento istruzione elementare molto buono. Casa ritorno da capo, la rifaccio. Che io infatti non mi sono sposata mai. Ragione per cui all'uomo non piaccio. All'uomo non piaccio. Ragione per cui piaccio alle femmine. Che in anni 7 sperimentai relazione 6. Con femmine 6. Che è stato buono questa mia esperienza lesbica. Casa ritorno da capo, la rifaccio. Ragione per cui ci ho avuto Grazia, Magolata, Bruna, Luisa e Gina, che fanno 5, più Pamela che fanno 6. Queste furono tutte esperienze lesbiche fisse. Che poi ne c'è una volta tra una e altre esperienze lesbiche, non fisse, ragione per cui non le ricordo tutte. Con Luisa e con Gina ci divertiamo assieme come marito e moglie, con uguale. Con Grazia, Magolata e Bruna non divertiamo assieme, ok. Grazia era sposata. Bruna stava a Palermo e Magolata stava in ospedale, via che teneva il cancro alle ova. Ragione per cui stava in ospedale, non si poteva. Che era simpatica che mi faceva ridere, che poi morì. L'ultima esperienza lesbica fissa fu con Pamela. Pamela Brown, americana dell'America, che si era divorziata da un maggiore, americano pure lui, dell'America, che stava alla NATO di Napoli, che la NATO di Napoli erano tutti americani dell'America, ragione per cui stavano a Napoli. Che il maggiore era un uomo sessuale. Tra gli uomini sessuali sono una specie di lesbiche che ufficialmente sono uomini, ma soggettivamente sono sessuali. Cioè a dire, sono lesbiche che gli piacciono altri uomini. Che contrariamente a lei lesbica gli piace l'altra donna. Che è un coltello, insomma. Ragione per cui il maggiore era un uomo sessuale. Pamela era lesbica, che si erano sposate perché non c'è stato, che erano due lesbiche. Che il maggiore mai l'aveva toccata a Pamela. Ragione per cui io una sera ci incontrammo di pioggia, che pioveva, e noi ci incontrammo alla festa della pitella della scuola mia. Abba si chiama Abba, la giorno per cui fa la pitella. Che fa la bidella, ma va pure la mammana, casi uno della nupicellina in coppa, va da Abba, O Piccinino non si trova più. Sparito. No, no. Oh, per dire. Per dire. Ragione per cui io andetti alla festa di Abba, ragione per cui incontrai Pamela, ragione per cui la toccai, ragione per cui nacque grande amore, che Pamela non spiccicava una parola d'italiano, io d'americano, ragione per cui non parlavamo. Solamente quanto che godevamo, essa mi diceva love, che significa amore. Io dicevo a essa troia, che pure significa amore. Ragione per cui fu un grande amore, che durò anni due, che poi Pamela si scucciò di me. Mi mandò a fare un culo, mi abbandonò, che diceva che io ero una porca, che le chiedevo sempre le cose sozze, che contrariamente la porcona era lei. Ciao! Ciao! Ragione per cui mi trovai sola. Sola, come una ruota di scorta, se signore. Io, fino allora, causa mia marcinazione lesbica, fu stata una ruota di scorta dell'umanità. Ragione per cui disse, basta con le femmine che sono strunze, io amo l'uomini. È vero che l'uomo non mi ha cagato mai. No, ma mica ho cercato tanto. Allora, come facevano l'uomo a cagarmi? Ragione per cui, come quello che inventò gli lacci delle scarpe, li teneva giù a un cassetto, dice nessuno mi compra i lacci, stronzo, se tu i lacci li teni giù a un cassetto nessuno li può comprare, no? Se non vendi chi compra? Questa è la santa sacra verità, il mondo è un mercato fatta a scale, c'è sta chi sa. C'è sta chi vende, c'è sta chi compra. Ragione per cui necessita di mettere la sua propria fregna sul mercato dell'uomini. Che? A paese mio, il mercato dell'uomini si chiama Cinema Garibaldi. Cioè fanno sporco grafici. Ragione per cui ci hanno detto che dentro al cinema ci stavano tutti gli uomini. Che non appena che mi mise a sedere, si avvicinarono 5 o 6 uomini, tutti col cazzo in mano. E io piacevo più io che all'artista del cinema. Ragione per cui uno mi ha detto su una scarpa che pareva uno scaraccio di sputo. Ragione per cui ti metti il peggio, chiusi gli occhi per la paura. Uno mi prese la mano e mi disse, vieni via, questo qui non è posto per signorina, vieni. Esso si chiamava Vito, amoroso Vito, di anni 32, era la prima volta. Dicevo, ragione per cui lo dissi, fortunatissima. Ragione per cui quel pomeriggio stesso, adesso vedo, mi portò a Belcome Residence, che è un villaggio turistico per l'estate, che essendo inverno era chiuso, lui faceva il guardiano d'inverno. Ragione per cui teneva pure una pistola e un cannelupo. Che mi fece un dè al limone, io feci adesso un bambino, poi mi fece uno spinello, io feci adesso una masturbazione, poi mi fece danzare con la radio accesa, e io feci godere esso alla maniera soddisfacente. Così, così andò quel pomeriggio, che io perdetti mia verginità, e conobbi come cazzo era fatto un cazzo, che un cazzo fatto a forma di cazzo, ragione per cui c'ha la forma del cazzo, ma secondariamente è un cazzo vero e proprio, ragione per cui io mi innamorai a Vito, e Vito si innamorò a me. Che l'amore è buono! Che l'amore è bello! Che l'amore va bene a tutto l'apparato umano dell'uomo e della donna! Va bene benissimo. Prima infatti erano mio zomo. Dopodiché, esercitando per mesi due mia relazione fissa con Vito, divenne una donna tutta completa. Al giorno per cui mi cadono i pili dalle gambe, che contrariamente l'uomo sono pieno di pili, no? Mi si gonfiarono le sise. Ma mi si pure i rossetti, insomma. Però c'è un particolare, ragione per cui mi venne un dubbio atletico. Quale essere differenza vera tra l'uomo e la femmina? Una essere. Che alla femmina ci va il marchese che la puzza di uova fracide, no? Che l'uomo, il marchese, non ci va. Io mi passò il tempo del marchese e non venne. Ragione per cui ero gradiva. Cadene un piccirillo in coppa. Un piccirillo doveva nascere dopo mesi, 9. Che Vito mi disse, oh mia amata, oh mia adorata, felicità eccessiva riempie il cuore mio per lieto evento, che contrariamente, come papà, sono un punto interrogativo, che non saggio quale essere il rapporto mio con Pupi, vorrebbe tanto mettermi alla prova. Oh mio amato! Oh mio dorato, io come sopraffaccio la maestra elementare, no? Tengo una classe di 26 pupi, quale migliore palestra per risolvere il tuo dubbio atletico di essere o non essere papà? Mica me li vorrei portare tutti i 26, no, due o tre più simpatici, ci passiamo un pomeriggio assieme, uno solo. Ok, uno, come lo vuoi? Caruccio, femmina o mascolo? Mascolo come a me. Che poi, siccome il tè era pronto, essi non tornavano, andetti per chiamarli, che stavano dentro la piscina che era vuota, che Mauro teneva una mano tra i cosci di Vito, ragione per cui Vito teneva un calzoletto, ragione per cui Mauro lo fece godere, ragione per cui io mi incazzai assai, ma sai che dalla rabbia ci vidi rosso, che per terra dentro la piscina ci stava la pistola che io la presi e ci sparai alla testa di Mauro. Che la testa di Mauro? Se rompette in tanti pezzetti. Ci stava l'occhio, il cervello, il naso, la lingua. Erano volate da una parte e da un'altra parte. E c'era per cui Mauro morì. Che vita mi disse. Marta, Marta! Che io lo dissi. Porco! Porco! Che però... che però l'apparenza inganna. Che conclusivamente facciamo l'amore 2 ore e 30 minuti. Io ho detto 5 o 6 puntate. E facciamo l'amore nella piscina vuota davanti al bimbo che... non sta bene, insegnamento cosa tutta bimbo, pure se bimbo era morto. L'avevo fatto. Tu l'hai fatto, io che c'entro. Le dissi, che era un porco suino, esercitando cose tutte con bimbo, che contrariamente io ero assassina. Piangevo. Per cui esso fece voce, docente, voce, mi disse: oh mia amata, oh mia adorata, io perdutamente amo le tributi tuoi sessuali, ma perdutamente amo pure le carni fresche delle bimbe. Non si può! O femmine o mascoli! O bene o bene! No, mia adorata! I want to le monde, come dicono i tedeschi. Tutto voglio e tutto avrò. E io te lascio e ti abbandono per sempre, giuro! Ah, mia adorata, quando si fessa, se tu mi abbandoni, io te spero i carabinieri, che te l'assicurano alla giustizia, essendo che sei assassina del bimbo. La soluzione a una è, la vivremo con gli uguali, mio marito e tua moglie, esercitando tutti i sacrosanti giorni alla maniera soddisfacente. Capo, una volta al mese, mi porta a casa un bimbo mascolo, per gradimento mio sessuale, da porco suino. Ok? Il Ludovito era un ricatto. Da giorno per cui la disse sì. Primo, perché era una povera bestia creativa, con piccolino in coppa che Pito era papà Eso. E secondariamente perché perdutamente amavo Pito, che era l'uomo primo di vita mia. E cioè per cui lui mi ricattò e io feci come esso bravava. Che la portai ancora a ver come residente. Bimbi tue, di grazie mia lamentare, che uno si chiamava Marco, quell'altro Salvatore. Il giorno per cui Vito e si portò alla piscina vuota, dove li inculò come da regolamento, che sanguinavano dal culo come arance da rocchi. Ecco io soggettivamente tutto vidi. E contrariamente, non mi fece impressione nessuna, che ormai mi ero allenata a cose tutte di mascolo con mascolo. E allenata mi ero pure accide, senza la pistola, con le mani, con una appena che vito porco suino godeva, io tac! Ciappavo il bimbo per lo collo e stringevo. Che bimbo? Bimbo non gridava, no. Bimbo faceva solo... Secondo poi non faceva più uno cazzo che era morto. Ragionava come... Bimbi tre scomparsero in mese due. Ragionava come i paesani del paese vivevano nel cubo. Si era infusa la pisciosi delle mostre assassine dei bimbi fagiulli. La giustizia da cavolo. Ragionava quelli carabinieri vennero pure a per come residence. Che contrariamente nulla essi trovarono. Essendo che le bimbe fanciulli, dopo che l'ingegneritore del residence l'aveva ingeneriti, non erano più bimbe fanciulli, ma c'erano dei bimbo. Con cenere di monnezza, con cenere di bimbo. La giorno fa la polizia brancolava nel buio, l'indagine non assegnava il passo e si fermò. Capò venne la primavera, Capito morì così, c'è stava tanto sole, ascoltavo la radio che faceva il bollettino dei naviganti. Ragionava qua, a Vito, io piaceva il bollettino dei naviganti, che parlano piano e dicono... Canale di Sicilia, molto scosso, mare e terreno, modo odioso, in aumento. Ragionava qua a vita, gli piaceva. Che tanto assai gli piaceva, che sorrise, che pareva un angelo del cielo. La giorno per cui io stessa gli dissi, amore mio, e lui morì, che gli venne un colpo apolettico nel corpo suo, la giorno per cui morì, che io piante assai le lacrime amare della vedova, la giorno per cui ero vedova. Che essendo vedova ero pure gradio al sesto mese. Ragione per cui panza mia si compiò, che pareva un mappamondo del mondo mondiale. O piccolino mi andava a calci e dentro panza mia peggio di Diego Armando. Ragione per cui pastori. Pastori, creatura con la camicia. Ragiono per cui la estetica disse, chiamalo Fortunato, che contrariamente non era pupo mascolo, essendo che era pupa femmina. Ragiono per cui la chiamai Fortunato. Era bella come la luna, e buona come una formica. Io baciavo essa, su testa sua pelata, essere devo, devo. Cerchi piatino dolce dolce, che parevano babà. Io l'amavo assai. Essendo che ero madre essa. La giorno per cui essa era figlia a me stessa. La giorno per cui assai l'amavo. Che per farla dormire cantavo essa la canzone del salame. Le stelle sono tante, milioni di milioni. La stella di Necroni vuol dire qualità. Ragiono per cui essa dormiva. Essa dormiva. E io la guardavo. Ragiono per cui nello cervello mio di mamma brillavano milioni e milioni di pensieri bellissimi da mamma. Che contrariamente un giorno mi venne un pensiero brutto brutto, che io soggettivamente ero madre assassina del bimbi fanciulli, che essa ufficialmente era bimba fanciulla. Ragione per cui io ero fuoco, essa era paia, perché si mette fuoco vicino a paia, paia se fa fuoco. Ragione per cui paia, muore. Ragione per cui per spegnere lo fuoco dei pensieri brutti brutti, mi si destamino sotto lo rubinetto dell'acqua, che contrariamente ai pensieri brutti brutti sono come i pitocchi, che i pitocchi si ingrappano alle capille, e i pensieri brutti brutti ai cervelli. La ragione per cui i pitocchi li deve accidere è uguale ai pensieri brutti brutti. La ragione per cui i principi sbatte testa mia contro un muro. Che testa mia sanguinava di sangue. Che contrariamente i pensieri brutti brutti non volevano morire. Ragione per cui prendetti, bimba mia fortunata. E la portai alle sue. E disse a esse. Sore. Ragione per cui esse capirono. E se ci apparono fortunata. Ragione per cui me ne han detti lontano, lontano, dove c'è sta una città che si chiama Trieste. Che a Trieste c'è sta l'ospedale psichiatrico delle matti. Ragione per cui mi chiappai l'inseguimento nel fosso, nel cervello. Che inseguimento nel foso fa così. C'è sta due nefi. Uno nefo buono e uno nefo cattivo. Nefo cattivo, meno nefo buono. Ragione per cui nefo buono scappa via, che parano un cane e un gatto impazziti, che contrariamente sente nelle orecchie tutte le api che fa. La ragione per cui è chiamato inseguimento nel foso del cervello. Ma non parlai più. Non parlai più per anni due. Caparevo muta. Che contrariamente stavo zitta. Essendo che nessuno capiva me stessa. Che secondariamente io non capivo a nessuno. Stavo zitta. Dopo anni due venne all'ospedale, psichiatrico con un dottore. La giorno per cui le disse, dottore, io non parlo. La giorno per cui parlai. Che io io non più parlai come prima parlavo. Principiai a parlare come tuttora parlo. Ma parlo male assai. Assai. Alle parole mie! Sono come l'uccello di gennaio, che non si affermano mai, che stanno in mezzo al cielo e ci fanno le figure negre, che non si capisce che figure sono, essendo che non si affermano mai. Ragione per cui tutti gli abitanti di Trieste guardano nel cielo. Che contrariamente subito si rimettono a camminare. Ragione per cui a gennaio fa freddo. Ragione per cui nessuno si può affermare. Lo spettacolo Raccione per cui di Giuseppe Bertolucci con Marina Confalone. Lo spettacolo Il fulmine nella terra, Irpinia 1980, scritto e diretto da Mirko Di Martino con Orazio Cerino, aiuto regia Melissa di Genova. Partita agonisticamente molto bella, ma anche tecnicamente assai piacevole nonostante il terreno. Il secondo gol arriva al 28esimo, spiovente lungo di Di Bartolomei da destra, perfetto stacco di testa di Pruzzo e rete. Il terzo gol della Roma al 34esimo. Per la vivissima presenza agonistica di un po' tutti i protagonisti, ma anche per la trasparente intenzione manifestata sia dai rossoblu che dai viola. È stato un 2-1 ineccepibile, illustrato da una Juventus spesso incontenibile sul piano del gioco, con buona pace di Berzotti, ed un Inter fatalmente menomato dal rendimento deficitario di due reparti su tre, retroguardia e attacco. I nerazzurri reagivano all'avvio prorompente degli avversari, affidandosi dopo Sornione manovra a centrocampo a rapide puntate in profondità. Erano però i centrocampisti, in questi frangenti Beccalossi e Oriali e non le punte, a inguaiare Zoppo. Un sintomo premonitore della domenica pensionistica di Altobelli e Muraro, soffocati dalla morsa Cucura e Buosti. La Juventus, col trascorrere dei minuti, cominciava a mettere a nudo gli scompensi del tandem difensivo Mozzini-Canuti. Questa proprio no. Una sconfitta ci può stare, si sa, che nel calcio si vince e si perde, come nella vita. E si pareggia pure. Nel calcio, che nella vita mica lo so se c'è il pareggio. Che comunque è sempre una mezza vittoria o una mezza sconfitta. E perciò alla fine i risultati sono due. O vinci o perdi. E una sconfitta ci può stare, si sa. Ma non con la Juve. E non per 2-0, e non se hai Beccalossi, e non se porti lo scudetto cucito sulla maglia. L'ultima volta che si erano incontrate, la Juve e l'Inter, aveva vinto la Juve 2-0 a Torino. Ma stavolta era un'altra storia, che è sempre un'altra storia, si sa. Ma stavolta di più, che era da poco cominciato il campionato, e per la prima volta si potevano comprare gli stranieri. Uno solo per squadra, però, che prima di comprarlo ci dovevi pensare bene. L'Inter aveva preso Proasca, che pure se era austriaco giocava da brasiliano. La Roma Falcao, che pure se era brasiliano faceva il centrocampista. Il Napoli invece aveva preso Kroll, che pure se era difensore non sapeva di dover marcare il suo compagno di squadra Ferrario, che a 5 giornate dalla fine, con il Napoli primo in classifica contro il Perugia già retrocesso, andò a fare gol nella sua porta e addio scudetto. Che nel calcio si vince e si perde. Si sa. E la Pistoiese aveva preso Luis Silvio, che pure se era un attaccante non segnò nemmeno un gol e finì a fare il barista in un locale di Pistoia. Che nella vita si vince e si perde. Si sa. Ottava giornata del campionato di calcio 80-81. La Roma di Lidolm è prima in classifica con 10 punti, poi Inter e Fiorentina a 9 e Juve a 5. E se i punti vi sembrano pochi, ricordate che all'epoca la squadra che vinceva ne prendeva solo 2. Altri tempi. Milan e Lazio erano state retrocesse in B per una serie di partite truccate e scommesse clandestine. Altri tempi. Ottava di campionato. A Torino si gioca Juve-Inter, il derby d'Italia, che vai a capire perché l'hanno chiamato così, manco le altre partite si giocassero in Albania. Trapattoni ha messo in campo la sua formazione migliore, con Cabrini, Scirea e Tardelli. Dall'altro lato, Oriali e Altobelli pensano che soddisfazione sarebbe battere la Juve a Torino. Inizia la partita. Il primo tempo passa senza reti, ma già al quinto del secondo la Juve si procura un rigore. E poi dice che la Juve non è sempre la Juve. Batte Brady, tiro, gol, 1-0. Il secondo lo segna invece Scirea al 24esimo e sul 2-0 la partita pare finita. Ma al 34esimo l'Inter riesce a riportarsi sotto con un gol di Claudio Ambu. In quel momento milioni di italiani sono fermi davanti alla televisione a guardare la partita, che però c'è già stata, perché quella che si vede in TV alle 7 di sera è registrata, che all'epoca il satellite non c'era. Non c'era neanche Mediaset, per la verità. Canale 5 era nata 10 giorni prima e trasmetteva su una serie di TV locali che insieme facevano il circuito nazionale. Anche Rai 3 era nata da poco e si chiamava Terza Rete o Terzo Canale, così come Rai 1 era il primo canale e Rai 2 il secondo canale. Altre TV non ce n'erano. A meno che non andasse bene Tele Svizzera o Tele Capodistria. La Rai chiudeva alle 11 di sera. Quando compariva la scritta «Le trasmissioni riprenderanno domani mattina a mezzogiorno». Nemmeno 12 ore di trasmissioni. Pensa tu. Niente telefonini, niente computer, niente videogiochi, niente internet. Vai a capire che faceva la gente tutto il giorno. Ogni domenica sul secondo canale veniva trasmessa una partita di Serie A, solo un tempo, alle 7. E questa volta ovviamente era toccata Juventus-Inter. È il 23 novembre 1980. Al 34esimo del secondo tempo, quando Ambu segna il gol dell'Inter, sono le 19:34. In quel momento, qualche chilometro a sud della Valle del Sele, al centro di un triangolo tra Salerno, Benevento e Potenza, una striscia di terra tra i monti Marzano e Carpineta si spacca come fosse un amaretto. Poteva succedere un'ora dopo, un giorno, una settimana, o magari un anno dopo, invece no. È successo proprio adesso, alle 19:34 del 23 novembre 1980. O 35, 36, 37, qualcuno dice pure 40, che nemmeno su questo siamo d'accordo. Ma tanto la terra se ne frega degli orologi. E così due enormi blocchi, che si sono spinti l'uno contro l'altro per decine di anni, senza spostarsi nemmeno di un centimetro, decidono che adesso basta. O si vince o si perde, come nel calcio. E uno va su e l'altro va giù, come nella vita. E mentre la terra trema si apre una spaccatura lunga decine di chilometri che attraversa Campania e Basilicata, con un lato che si alza di un metro rispetto all'altro, che se ci andate adesso, tra i monti Marzano e Carpineta, li trovate ancora così. L'intensità del terremoto è una delle più forti mai registrate in Italia, 6,9 gradi della scala Richter, che però, detti così, non significano proprio niente, perché tanto la terra se ne frega delle misure, ma noi no. Noi misuriamo tutto lo stesso, pure il terremoto, perché quello che misuriamo ci appartiene, pure il terremoto. E quello che non si misura non esiste, come la morte. Che misuriamo la vita per quanto è lunga, e la morte è solo il punto dove finisce la vita. O magari comincia se ti va bene, ma sempre un punto è. E quanto è grande un punto? E quanto durano 90 secondi? Molto poco. Il 23 novembre 1980, alle 19:34, Radio Alfa 102 ad Avellino sta registrando delle basi musicali. Questo boato che sentite è il terremoto, è la sua voce. Sono molti o pochi 90 secondi? In 20 secondi e 19 centesimi Pietro Mennea vince l'oro nei 200 alle Olimpiadi di Mosca, che vabbè che non c'erano gli americani, ma una vittoria come quella non te la scordi. In 45 secondi Roberto Benigni bacia Olimpia Carlisi sul palco del Festival di Sanremo in Eurovisione, che tanto era l'imbarazzo che lo tirarono via a forza. In 90 secondi Gilles Villeneuve completa un giro di pista Imola che al sesto giro gli scoppia una gomma a 280 km all'ora e va a sbattere talmente forte che doveva proprio morire. Il debito lo pagherà in Belgio 2 anni dopo. Sono molti o pochi 90 secondi? Chiudete gli occhi e provate a contare. 1, 2, 3. Arrivate a 90, poi riapriteli. Intorno a voi sono morte 3.000 persone. 10.000 sono rimaste ferite. 460.000 senza tetto. 80.000 abitazioni distrutte. In 90 secondi. La partita di Torino finisce 2-1 per la Juve, ma guardarla qua, non c'è più nessuno. Forti scosse di terremoto sono state avvertite pochi minuti fa in Basilicata, nella zona del Vulture vicino Potenza. Non si hanno notizie di vittime, soltanto qualche contuso. Notizia certa della morte di una donna stroncata da un infarto sulla metropolitana. Non è accettato l'epicentro del sisma. In particolare sono state avvertite due leggere scosse. Degli incendi, perché le persone per la paura sono fuggite, magari c'è stato qualcuno che ha lasciato acceso il fornello della cucina. Alle 19.34 il presidente del Consiglio, Forlani, è a Villa Madama che sta aspettando l'ospite della serata, il primo ministro inglese Margaret Thatcher. A Villa Madama la scossa non si è sentita, ma nel resto di Roma sì, è forte. In tutta Italia si è sentita che la gente scende strada, i sismografi sono impazziti e non si capisce proprio dove c'è stato questo Madonna di terremoto. Umbria, Calabria, Puglia, Napoli. 25 minuti dopo, il TG1 dice che la scossa è stata in Campania, più o meno intorno a Eboli, ma non si hanno notizie dei morti. Non si hanno notizie e basta. Passano i minuti, passano le ore, passano i piatti della cena a Villa Madama. Dopo le 9 si viene a sapere che a Potenza ci sono 3 morti. Quando diventano 10, il ministro degli esteri Emilio Colombo si alza e dice che va a Potenza, a casa sua. Arriverà alle 4 del mattino. Ma a Roma la cena continua. E quando finisce, il presidente del Consiglio e i 3 ministri presenti al Villa Madama si salutano che non si sono nemmeno detti che fare. Si vedrà domani. Ma un giornalista della RAI nella notte riesce a stabilire un collegamento telefonico con il parroco di Balvano. Pronto? Sì, pronto, che è successo lì? È crollata la chiesa, c'erano più di 300 persone dentro. Donne, vecchi e bambini, perché così che va la domenica, no? Gli uomini al bar e le donne in chiesa. Stavano ascoltando il sermone del predicatore venuto da Mater Domini a parlare di Cristo maestro di misericordia. Una predica bella quanto può essere bella una predica, ma troppo lunga. Fosse durata 5 minuti di meno, sarebbero tutti vivi. Abbiamo sentito una vibrazione, come se il mondo si rivoltasse, poi un vuoto d'aria. Chi si è salvato? È stato per miracolo. Come a Gesualdo. Che quando arriva la scossa, nella chiesa madre ci stanno 200 persone a pregare la Madonna degli Afflitti e in piazza più del doppio a ballare la Montemaranese che un giorno di festa. Il campanile si piega sulla gente ma si ferma a mezz'aria. In chiesa la cupola si apre, piovono pietre come fosse grandine, la gente cerca di scappare ma il parroco gli grida di restare e magari pure di pregare, che in chiesa si va per quello, si sa. I secondi passano, la terra si ferma. Sono tutti vivi. Nelle case c'è passato come una mano invisibile che ha buttato per aria tutto, ma i quadri dei santi sono rimasti intatti. È un miracolo. Dio ha voluto risparmiarci. Ma Dio non ha voluto risparmiare una vecchia lancia beta a un muro lucano che ci ha fatto crollare sopra una parete della cattedrale. In macchina c'erano 2 ragazzi di 20 anni. Lui lavorava, lei studiava a Potenza. Si incontravano una sola volta alla settimana, nella stradina buia dietro la cattedrale, che quello era un bel posto per farci l'amore. Pure per l'ultima volta. Ma di tutto questo in Italia nessuno sa ancora niente, che per il momento l'unica voce resta quella del parroco di Balvano che sta parlando con il giornalista della RAI. Quella telefonata ha salvato quello che ti poteva salvare a Balvano, che per essere stato nominato in TV i soccorsi ci arriveranno la mattina dopo, mentre decine di paesi nelle stesse condizioni dovranno aspettare altri 2 giorni. Che tutte le linee telefoniche sono saltate, non si può né chiamare né ricevere, non c'è acqua, non c'è corrente, le strade sono interrotte, franate o piene di macerie. L'Italia finisce a Napoli stanotte. E magari ricomincia a Potenza, se la volete chiamare Italia, quella. In mezzo c'è un buco profondo centinaia di migliaia di persone. Ci vorranno ore, prima che venga fuori qualcuno. Ci riesce un radio amatore. I suoi messaggi vengono raccolti da altri radio amatori che li rimandano in tutta Italia, ma sono parole difficili da credere. Dicono che in Irpini è tutto un mucchio di macerie, che non c'è rimasto in piedi manco un muro. Aiutateci, fate presto, che ci sono centinaia di persone sepolte vive, non teniamo niente per scavare. Ma i primi ad arrivare non sono i soccorsi, sono i giornalisti. Il primo è un inviato del Corriere della Sera. Sono le 3 di notte a Lioni, 8 ore dopo la scossa. Trova un paese che è tutto buio, che stanotte pure la luna se n'è scappata. Qua e là c'è qualche fuoco acceso, e intorno gruppi di persone strette, con le coperte sotto al naso per non ghiacciare, con le facce bianche come fantasmi. Che appena arrivata la scossa sono scappati strada e sono rimasti lì ad aspettare, a riconoscersi, al dire al primo che capita, guardami, sono vivo! A cercarsi in mezzo alla polvere che ce n'è tanta che non si vede lontano un metro, che nemmeno le notti che la nebbia pare sugna, è così. E puoi solo chiamare in giro, senza capire manco dove sei tu, e sperare che da qualche parte ti risponde tuo figlio, tuo padre, tuo fratello, o un Cristo qualunque, chiedergli se l'ha visto a tuo figlio, tuo padre, tuo fratello, che sicuramente hanno fatto in tempo a scappare, ma allora perché non li trovo adesso? E dappertutto le grida di quelli che sono sotto, che nessuno è in grado di aiutare. Chi è riuscito ad uscire l'ha fatto da solo, scavando da dentro con le mani, pietra dopo pietra. Ma per tutti gli altri non c'è niente da fare. Quando il fulmine si è scatenato nella terra, le case ballavano e le pietre dei muri rotolavano come grani del rosario. È un miracolo. Chi si è salvato si è appeso alla mano di Dio. Come Gelsomina, che a Nocera Inferiore ha già preparato la cena per la famiglia, suo figlio di 10 anni è andato al bar di fronte a giocare a Donkey Kong, il videogioco. Che tu eri un omino con i baffi e una tuta blu e dovevi salire in cima ad una serie di piani per andare a salvare la tua donna, prigioniera del ferocissimo gorilla Donkey Kong, che mentre tu salivi, lui ti lanciava dei barili e tu li dovevi saltare. E questo era tutto. Ma costava 100 lire e ti divertivi un sacco. Che facile divertirti quando non c'è nient'altro, si sa. Eppure il figlio di Gelsomina si sta divertendo. Ma si è fatto tardi e Gelsomina va a chiamarlo. Esce in strada. Fa pochi passi. Entra nel bar e non si accorge che intanto è arrivato il terremoto. Esce dal bar col figlio e torna a casa. Ma la casa non c'è più. Sotto le macerie sono morti il marito, la figlia, la nuora e 2 nipotini. Gelsomina si è appesa alla mano di Dio, come Lidia, 20 anni, che non ha voglia di restare a casa sua a Sant'Angelo e decide di andarsene al cinema a Lioni. Danno i contrabbandieri di Santa Lucia, che c'è Mario Merola che fa il camorrista buono, onorato e rispettato, che vive con le sigarette di contrabbando e che però deve combattere contro il mafioso di turno che pensa solo ai soldi e al potere. Migliorici! Mangia queste confette! Ma a Lidia il film non piace ed esce prima della fine. Appena il tempo di arrivare per strada che crolla tutto. Lidia si è appesa alla mano di Dio. Quella che tutti gli altri hanno mancato. Come le 2 sorelle di Volturara che quando è arrivata la scossa hanno provato a scendere per strada, ma la scala di legno che doveva portarla giù è crollata. L'unico crollo di tutta la casa. Vagliela a spiegare adesso che bastava appendersi a una mano. Alle 4 del mattino il ministro degli interni Rognoni si presenta al ministero, ma le notizie, quelle poche che arrivano, non sono così preoccupanti. Perché i comuni che non segnalano problemi sono quelli dove non c'è rimasto più niente, nemmeno le caserme per segnalare. Come a Sant'Angelo dei Lombardi, dove a quell'ora le uniche luci sono i fari di un trattore che hanno fatto tirare fuori vivo dalle macerie un bimbo di 6 anni. Tutto intorno non c'è rimasto più niente. Stanotte Sant'Angelo esiste solo nel cuore di Cristo. E a Teora, via del Plebiscito è una trincea appena bombardata, con le case che sono crollate sulla gente che scappava in strada. Eppure qui? I primi ad arrivare sono i giornalisti all'alba. Uno dei fantasmi li vede e gli va incontro a braccia aperte. Grazie a Dio siete arrivati! Ci sono centinaia di persone sotto le macerie. Se ci sbrighiamo possiamo salvarli! I giornalisti si guardano perplessi. Come? Voi non siete soccorsi? Ma come? Ma siete i primi che vedo! Adesso che giorno, però, almeno puoi provare a scavare. E devi fare in fretta, perché chi chiedeva aiuto non chiama più e se lo chiami non risponde. Eppure se non ha manco un piccone, una pala, puoi almeno provare a spostare una pietra, un ferro, un pezzo di legno e sperare che ti va bene. Come alla bambina di 11 anni che hanno tirato fuori viva a Castelnuovo di Conza. Che il paese è rotolato giù come una palla di neve, ma lei è rimasta viva. Si chiama Maria. Il cognome non se lo ricorda più. E a Teora un uomo ha tenuto viva sua moglie per 20 ore mandandole aria con un pezzo del tubo del termosifone. E a Laviano Emilia è rimasta sepolta sotto le macerie di casa sua insieme alla madre, 3 figli e i nipotini piccoli. Sono morti tutti quanti, solo Emilia si è salvata. E chi lo sa? Chi lo sa come mi sono salvata? Ero rimasto con la testa da fuori, il resto era tutto incastrato e gridavo. Allora poi è arrivato l'unico figlio mio che si è salvato perché era andato al bar e mi ha detto mamma, sono morti tutti. E allora io gli ho detto figlio. Lasciami dove sono. Runner on your mark, I've been training to be careful not to jump the gun. Gonna give it all my heart, I've been on looking back until the race is won. Got to put it to the test. Il 4 novembre 1980 Miguel Bosé, primo in classifica con Olympic Games, l'inno ufficiale delle Olimpiadi di Mosca. Una canottiera bianca, una fascia rossa in testa, un paio di puto bianchi a pallini rossi, stretti stretti che gli si vede tutto. Ha sbancato il festival bar. La canzone l'ha scritta Toto Cotugno, parla di winners e losers, vincitori e sconfitti, che nella vita si vince e si perde. E stavolta, chi ha vinto si è salvato e chi ha perso è sotto le macerie. Molti sono ancora vivi, ma scavare così con le mani non ci fa niente. Ci vogliono i vigili del fuoco, che però in Italia sono 16.000 e tengono in tutto 7 elicotteri. Che ne avrebbero 14, ma la metà è sempre rotta e perciò ne tengono 7. E ci vuole l'esercito, che a Pescopagano sono arrivati nella notte da Potenza e in poche ore hanno tirato fuori dalle macerie tutti quelli ancora vivi. Ma negli altri posti, fino a lunedì sera non si vede in giro una divisa. E paesi come Calabritto, Senerchia, San Michele di Serino dovranno aspettare martedì per avere i primi soccorsi. E di Ricigliano pure la radio se ne dimentica, che non sarà nominato per interi giorni, che quasi muore come si campa. Dimenticati. Ma dove pure c'è qualche soldato, sono arrivati là per caso che manco le mappe gli hanno dato, che per trovare la strada giusta si sono dovuti fermare a chiedere ad ogni incrocio come fossero turisti, come quelli della divisione Acqui, che alle 10 di martedì mattina si presentano alla caserma Berardi di Avellino, dove è stato posizionato il coordinamento dei soccorsi. Dopo 3 ore che sono fermi lì, il capitano decide che ne è abbastanza di sentire le urla di un piccoletto che non fa altro che gridare «Via! Via! Andate da qualche parte! Qua ingorgate!» e lo afferra per il bavero. «Ma dove cazzo andiamo?» che stava la maggior parte dei nostri soldati in Friuli e in Veneto per difenderci dai rossi, che infatti in quei giorni ne stanno combinando un'altra delle loro. In Polonia un sindacato, Solidarnosc, e l'uomo che lo guida, Lech Walesa, hanno messo in crisi il governo filosovietico. L'URSS, che c'era ancora l'URSS, ha già schierato i suoi carri armati al confine e forse attaccherà Varsavia da un giorno all'altro. E per questo motivo, domenica sera in Campania e in Basilicata c'è solo l'esercito di Serie B. Per quello di Serie A bisognerà aspettare che arrivino dal nord le lunghissime colonne di camion che viaggiano a 40 all'ora, quando va bene. E una volta arrivati in paese si formano degli ingorghi che per fare 200 metri ci vogliono ore, che nessuno ha pensato a mettere dei posti di blocco per vedere che portano, dove vanno, dove dovrebbero andare. E una volta in paese i soldati non sanno che fare perché gli hanno insegnato ad usare il fucile, mica la pala, che non gliel'hanno nemmeno data la pala. Sono arrivati a mani vuote e quei pochi attrezzi che hanno se li litigano i parenti dei sepolti vivi, che ognuno cerca di fare scavare prima da lui e alla fine non si scava né di qua né di là. Ma gli unici a essere veramente organizzati sono i soccorsi tedeschi o francesi o svizzeri, che spesso sono arrivati pure prima degli italiani. E hanno i cani che entrano ed escono dalle macerie e le sonde che ti sentono il battito del cuore pure se sei morto. Vabbè, ma in genere si va avanti come capita, che nessuno sa se dietro quelle macerie c'è qualcuno o no, che magari è solo il lamento di un gatto, come a te ora, che però dietro al gatto ci hanno trovato un uomo. Si chiama Ciro. Gioca a pallone, centrocampista. Sta là sotto da 39 ore, da quando la parete della chiesa a fianco gli è crollata sulla casa. Si è salvato perché l'ha protetto un'inferriata che però adesso gli schiaccia le spalle e lo soffoca. Capità! Tengo un poco di fiatone! Calciatore centrocampista. Hai lo stomaco troppo schiacciato. Devi fare un po' di iperventilazione. Sai come fanno i nuotatori. Tu sai nuotare? Nuotare. Capità. Io giocavo a pallone. Potrebbero tirarlo fuori subito, ma prima bisogna tagliare l'inferriata con una tronchese. Ci vorrà mezz'ora per trovarne una. Che soccorsi non c'hanno nemmeno quella. Il grandissimo successo della TV italiana del 1980 è fantastico! Lo show del sabato sera dove esplode la stella di Heather Parisi. Una perfetta sconosciuta di 20 anni che fa impazzire il pubblico italiano, che chi l'aveva vista mai? Una che ballava così ed alzava la gamba fino al naso. Disco Bambina venderà 1 milione di copie. In Italia la protezione civile ha in tutto 13 depositi per le emergenze, che al sud stanno a Caserta, Catanzaro, Reggio Calabria e basta. E però in questi depositi non c'è una pila, una ruspa, una pala, una stufa, un gruppo elettrogeno, che tutto quello che c'era era stato usato per il Friuli 4 anni prima. Che in realtà la protezione civile nemmeno esiste, perché sì, è stata istituita con una legge del 70, ma i regolamenti d'attuazione sono fermi al Consiglio di Stato e perciò non esiste. E nella notte del 23, la stanza del coordinamento dei soccorsi a Roma l'ha messa in funzione un dipendente che ha sentito le scosse da casa sua ed è corso ad informarsi, ma una volta arrivato lì non va trovato nessuno. Ma è tutto l'apparato che si è mosso con lontezza, a partire dal governo, che si è riunito per la prima volta alle 9 di lunedì mattina, 14 ore dopo il sisma, quando la RAI aveva già mandato i suoi elicotteri a volare sulle zone terremotate. E solo adesso si capisce quello che è successo veramente. Nei telegiornali della sera, quei pochi che hanno la TV a colori vedranno un bel sole che illumina delle grandi macchie marroni e grigie che hanno non mi mai sentiti prima. Qualcosa come Laviano, Santomenna, Castelnuovo, che poi lo chiameranno il Triangolo della Morte. Che però pure Lioni, Sant'Angelo e San Mango chiameranno il Triangolo della Morte. E quindi ci saranno due Triangoli della Morte, perché noi misuriamo tutto, si sa, perché quello che misuriamo ci appartiene. Pure un triangolo con la morte dentro. Esistevano davvero posti così in Italia? In pochi giorni, dal nord arriveranno migliaia di volontari ad aiutare i terremotati, giovani, che non erano mai andati più giù di Roma, convinti che al sud è tutto piatto e giallo e c'è sempre il sole, ma allora com'è che qua piove sempre e fa freddo? Sarà una vera scoperta quella, per tutti, che non si può medire chi scopre chi è scoperto. Esistevano davvero posti così in Italia? Posti dimenticati sulla schiena di una montagna, lontano da tutti, fermi in un tempo che non esiste più, o che non è mai esistito. Paesi che sembrano nati dalla terra, storti come la gente che li abita, case buie come cantine, con i muri fatti coi sassi che trovi nei campi, grossi come meloni, che la terra solo quello ti dà, pietre e sassi grossi come meloni, grazie a Dio. E i maiali allevati per strada, che dormono in casa e mangiano prima loro e poi i figli, quando c'è da mangiare, grazie a Dio. E la gente che sembrano animali pure loro, alti 1,50 m, piegati in due nella schiena, sempre vestiti di nero e con le facce cotte dal sole rugose come pere secche, tutti uguali, tutte le stesse facce di morti di fame, che al massimo puoi distinguere i maschi dalle femmine, che se c'ha la coppola è maschio e se c'ha lo scialle è femmina. Esistevano davvero posti così in Italia? E com'è che nessuno ne sapeva niente? Eravamo i poveri tra i poveri, ecco com'è, l'osso d'Italia, così ci chiamavano, l'osso d'Italia. L'osso che avanza quando hai tolto la polpa, l'osso che si dà ai cani. È un osso. E chi se ne importa di un osso? Ma pure se lo butti via, un osso resta lì. Per secoli. E aspetta. Non farà altro che aspettare. Il 23 novembre, quando sono venuti a vedere, l'hanno trovato lì dove l'avevano buttato. No? Il terremoto ci ha fatto la grazia. Grazie a Dio. E siamo diventati italiani pure noi. E ci siamo meritati pure la visita del Presidente della Repubblica Bertini, così come i terremotati del 30 si erano meritati quella del Re. I terremotati del 30 eravamo sempre noi, ovviamente. Quella volta la scossa era arrivata il 23 luglio, che magari qualcuno ci vede pure un segno nel 23 che si ripete, che i numeri non mentono mai, si sa. E il professor Crocco, infatti, medium napoletano, l'aveva pure avuta la premonizione, che da giorni avvertiva un disagio crescente, il 23 sera era a Trani, e la pressione, che normalmente è di 85, gli era salita a 135, che è una cosa straordinaria. E perciò aveva telefonato alle figlie a Napoli e gli aveva detto di scendere per strada, perché i numeri non mentono mai, nemmeno quelli della pressione. Ma non c'era bisogno di un medium con la pressione alta per sapere che ci sarebbe stato un terremoto. In Italia, nel Novecento, ci sono stati 8 terremoti particolarmente distruttivi. E 3 sono stati in Irpinia. Nel 30, nel 62 e nell'80. Che poi il terno secco che si sono giocati a Napoli il sabato dopo. Insieme a 89, 47 e 90. 89 il terremoto, 47 i morti e 90 la paura. Che i numeri non mentono mai, si sa. Il che vuol dire che a meno che non ce ne vogliamo andare tutti quanti in Sardegna, dove la parola terremoto non la trovi scritta nemmeno sui vocabolari, dobbiamo costruire case che non cadono. Che lo sapevano già negli anni 60, quando a Sant'Angelo dei Lombardi avevano costruito un grande palazzo a forma di C e ci avevano aperto dentro il bar col rado che quella domenica era pieno di gente. Era alto 5 piani, 15 metri il palazzo a forma di C. Dopo il terremoto nemmeno 3 metri. Ci tirarono fuori vive solo 2 persone. E lo sapevano pure quando avevano costruito l'ospedale, sempre a Sant'Angelo dei Lombardi, 20 anni prima, che però l'avevano finito 20 anni dopo, cioè a maggio dell'80. Crollò un'intera ala, venne giù come carta. Tra le macerie non c'erano segni di ferro. A tal proposito, le idee più chiare ce le hanno gli alunni della scuola media di Lioni, che a dicembre sono tutti quanti riuniti in 10 prefabbricati e hanno scritto una storia. Una volta, una casa fatta di sabbia, cemento e ferro crollò e venne messa sotto inchiesta. Interrogarono la sabbia: perché è crollata la casa? E la sabbia rispose: io non lo so, chiedetelo al cemento. Interrogarono il cemento: perché è crollata la casa? E il cemento rispose: non lo so, ma chiedetelo al ferro. Al che il ferro preoccupato disse: e vuoi vedere che incolpano proprio me che non c'ero? Stick to me, round and round, you turn me upside. 1980 è l'anno della disco music, esplosa dappertutto, anche in Irpinia se ci fossero le discoteche, che qualcuna ce n'è, ma chiamarla discoteca non rende l'idea. Ma se ti va di ballare non hai bisogno di effetti laser, ti basta una cantina con un giradischi, una birra, una donna per compagnia, e allora ti puoi scatenare come fosse a Rimini, perché la musica è la stessa, e te la senti dentro che ti afferra le gambe e te le scuote sotto sopra, upside down, come dice Diana Ross. So benissimo che mi stai ingannando, ma nessuno mi fa sentire come mi fai sentire tu, sotto sopra. Che ti puoi sentire sotto sopra per la musica, per l'amore, ma mai per il terremoto. Che facciamo la guerra alla fame, alla povertà, ma mai la guerra per davvero. Che ammazziamo il tempo e il caffè, ma non ammazziamo mai per davvero. Perché le parole ci fanno paura. E se non la nomini una cosa, non esiste. Nemmeno il terremoto. Ma le parole le trovò Pertini. Il 25 novembre era stato a Lione e a Sant'Angelo. Il 26 torna a Roma e parla in TV a reti unificate come fosse Capodanno. «Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò», dice. «Ho potuto constatare che a 48 ore dal terremoto non vi erano i soccorsi che avrebbero dovuto esservi». Che è un modo sintetico per dire che non si trovava niente per scavare, che c'era tantissimo plasma per le trasfusioni che non serviva a nessuno, ma che non si riusciva a trovare un'aspirina. Che a Romagnano al Monte hanno dovuto aspettare 40 ore per avere i primi aiuti e poi hanno lanciato da un elicottero un sacchetto con 200 panini. Non gli hanno lanciato le birre perché sennò si sarebbero rotte. Ci sono state delle gravi mancanze, non v'è dubbio, dice Pertini. E chi ha mancato deve essere colpito come è stato colpito il prefetto di Avellino. Il prefetto di Avellino era stato rimosso già lunedì mattina, mentre stranamente erano rimasti ai loro posti i prefetti di Salerno e Potenza, che non è che avessero brillato per efficienza. E infatti verranno sostituiti il giorno dopo pure loro da due generali. Questo sarà l'unico risultato del discorso. Che pure il ministro degli interni Rognoni si dimetterà nella notte e ritornerà ministro la mattina dopo. Vi sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato deve essere colpito. E mi chiedo se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti, perché non hanno funzionato? Perché a distanza di 48 ore non si è fatto sentire la loro presenza in queste zone devastate? Ecco, perché? Perché? È quello che si chiedono tutti. Ma se se lo chiede anche il Presidente della Repubblica c'è qualcosa che non va. E a chi lo chiede il presidente? A noi. E noi lo chiedevamo a lui. Chissà se a Pertini gliel'hanno detto poi, perché. Almeno i generali sono nel posto giusto, visto che sta scoppiando una guerra tra poveri. A Morra la gente è rimasta senza aiuto per due giorni, e adesso che arrivano i primi soccorsi i camion non vengono presi d'assalto, si lotta per un paio di stivali, per una coperta, per un sacco a pelo, mentre il vice sindaco, che cerca di riportare la calma, viene preso a schiaffi. E dovunque c'è chi ripete due o tre volte il giro della distribuzione, chi ferma le colonne dei soccorsi fuori dal paese per avere un po' di pane e latte in più, e le tende, che sono la cosa più preziosa, sparizione. Se ognuno pensa solo a se stesso, alla fine, si sa. Sì, ma vagliela a dire a chi ha perso tutto. Famiglia, amici, casa, soldi, e non mangia un pasto caldo da ore, e non dorme in un letto da giorni. Vagliela a dire che deve rivolgersi alla Caritas. Oh, ma più Caritas della mia, che tengo 11 figli buttati in macchina. Vagliela a dire che se vuole una tenda deve mettersi sulla lista e aspettare, perché lo Stato italiano non è che qualche migliaia e le altre devono arrivare dall'America. Vagliela a dire che a Castelnuovo di Conza quelle poche decine di tende che sono arrivate non si possono montare perché mancano i chiodi. Vagliela a dire che a Teora ne sono arrivate 1500, il doppio di quante ne servivano, e tutt'intorno nessuna. Vagliela a dire. Intanto bisogna pensare in fretta come passare la notte. A Valva pare che il problema non c'è, che nel parco di Villa d'Ayala sono subito arrivati i cavalieri di Malta e hanno montato tende e cucine con letti e pasti caldi per tutti. Ma negli altri paesi bisogna arrangiarsi. A Solofra, una delle concerie della città, ha messo a disposizione i suoi capannoni. I soccorsi sono arrivati presto qua, ma sono inglesi. 300 tende e 6.000 coperte mandate dall'ambasciata senza passare per Avellino. A Conza 400 persone hanno trovato riparo nelle baracche dell'impresa che sta costruendo la nuova diga. Ma il paese è completamente distrutto. Il suo terzo terremoto è stato proprio l'ultimo. Case, chiese, bar, quasi pure le persone. Ricostruiranno tutto da un'altra parte. Ad Avellino i posti nelle scuole sono i più ricercati. Centinaia di persone si sono accampate nella scuola media Cocchia. Fuori dalla scuola hanno messo un cartello. Posti esauriti, rivolgersi alle altre scuole. Che ci voleva un terremoto per leggere un cartello così? Giorno dopo giorno la scuola media Cocchia viene presa d'assalto. All'inizio i più fortunati dividono un'aula in 8, poi si arriverà a 30. Al Borgo Ferrovia la gente è stata infilata nei vagoni dei treni e dove ci sono stati tirati fuori i pullman di linea, solo che i posti sono pochi e chi ne ha occupato uno non può più alzarsi, perché altrimenti glielo rubano. Ma quasi dappertutto non c'è nemmeno questo. E la seconda notte passa come la prima. In macchina, per quelli che la macchina non è rimasta schiacciata. A volte nelle coperte per quelli che ce l'hanno, o nei cartoni per chi non c'ha proprio niente. In giro si riaccendono i falò e sono pure il doppio della sera precedente. Le voci che chiedono aiuto, no. Quelle sono molte di meno. Praticamente nessuna. La seconda notte è più silenziosa della prima. È molto più lunga. Ma in compenso è arrivata l'acqua. Solo che gli altoparlanti si affrettano a dire che prima bisogna bollirla, che lo faremmo pure se ci avessimo i fornelli, che poi invece arriverà l'acqua nelle buste, che chi l'aveva vista mai l'acqua nelle buste? Se vuoi mangiare, invece devi avere la tessera da terremotato, che se non ce l'hai sei un terremotato abusivo e perciò non mangi. Ma tanto non c'è niente da mangiare, da nessuna parte. A Sal Serpino hanno appeso un cartello con scritto «Fermati, abbiamo bisogno di cibo!» Ma non c'è nessuno che lo legge. Quel poco di roba che c'è viene venduta a prezzi altissimi e c'è pure chi approfitta degli aiuti. Nei paesi c'è chi va in giro di notte tra le macerie in cerca di denaro e oggetti preziosi e nelle campagne c'è chi va a recuperare il bestiame che si è perso per portarselo via. E allora tanto vale fare come a San Mango, che di notte scatta il coprifuoco e all'ingresso del paese ci sono i soldati con il colpo in canna. Ma non per il cibo, per le coperte o per le tende, no. Per il tesoro di San Teodoro. Povero San Teodoro, mica pure il terremoto è dovuto sopportare. Che dentro ci sono tutti gli ex voto, le catene d'oro, i bracciali, le croci donate in centinaia di anni. Che San Teodoro di grazia ne ha fatte parecchie, L'ultima al custode del tesoro, che il terremoto gli ha fatto crollare la casa, ma lui è rimasto vivo. Sua moglie e sua figlia sono morti però, che San Teodoro una grazia te la fa, ma tre tutte insieme sono troppe. I ladri però pensano che pure il custode è morto e appena spunta l'alba cominciano a scavare. Il custode li sente ed è felice perché pensa che sono i soccorsi, allora li chiama, chiede aiuto, ma questi che fanno? Si fermano e bestemmiano. Povero San Teodoro, mica non bastava il terremoto, pure le bestemmie ha dovuto sopportare. E poi addirittura se ne vanno, ma che razza di soccorsi sono questi? La risposta arriverà parecchie ore dopo, quando i veri soccorsi lo tirano fuori. Povero San Teodoro, mica non bastava il terremoto e le bestemmie, pure le mariuole ha dovuto sopportare. In poco tempo comunque di roba ne arriverà tantissima. Ci pensa Zamberletti, che è il commissario di governo per le zone terremotate. Che Zamberletti non sapevamo nemmeno chi era e dove stava, ma a noi ci pareva una specie di dio che tutto dipendeva da lui e noi pure. Che Zamberletti vuole, Zamberletti dispone, e l'ha detto Zamberletti, e la manda Zamberletti. E alla fine ci siamo pure dimenticati che era un cristiano come tutti quanti gli altri ed è diventata una specie di marca sulla roba. Che questa pasta è Zamberletti, e questo giubbotto è Zamberletti, e per anni abbiamo continuato a dire ma dove vai con sti pantaloni Zamberletti? Che era come dire troppo lunghi, troppo corti o troppo brutti che solo se sei un terremotato te li puoi mettere. Perché i terremotati sono pezzenti, si sa. Che ci davano la roba a tonnellate, che ce la buttavano per strada, nel fango, sotto la pioggia, sotto la neve, e ci dicevano, ecco, prendete tutto quello che volete, vedete quanto siamo generosi? E noi ci andavamo e prendevamo. E se ne chiedevamo ancora, quelli ce ne davano ancora, e noi ci prendevamo pure quella. Perché se c'era voluto un terremoto per vedere tanta abbondanza, allora ce l'eravamo meritata. Ma ben presto quell'abbondanza diventerà troppa pure per noi. Come le decine di materassi a molla scaricate a Castelnuovo di Conza, senza capire perché. E i quintali di cartoni di latte, di cibo in scatola, di sacchi di patate, di pani, di limoni, di pacchi mai aperti che nemmeno si sapeva che c'era dentro e che poi nessuno si ricorderà più chi li ha scaricati, da dove vengono, da quanto tempo stanno lì, e non resterà che bruciare tutto. Ho comprato un cielo al supermercato, due sogni falsi l'ho pagato, ma il sacchetto era rotto e le stelle ad un tratto son volate via, formavano una scia che andava fino a casa tua. A Calitri la parte vecchia è crollata, ma quasi tutta la parte nuova ha resistito. I soccorsi sono lenti però. La nostra sfortuna è stata di avere solo 5 morti, dice il sindaco. Ma negli altri paesi i morti sono l'unica cosa che non manca, che per contarli si fa prima a sottrarli dai vivi. Il problema è dove metterli però, quando pure la barella è in lusso, che li devono trasportare legati alle tavole col filo elettrico, o alle scale, o annodati alle lenzuola, o tirati per le braccia se proprio non c'è niente. Restano abbandonati per strada, o su una panchina, avvolti nelle coperte, nei teli, o solo nei fogli di giornale, che tanto ci si abitua a tutto, pure a vivere in mezzo ai morti, che è un controsenso, si sa. Ma che ci vuoi fare? Chi cerca qualcuno deve andare a leggere i cartellini legati ai cadaveri di quelli riconosciuti o andare a guardare le facce di quelli non riconosciuti. Li hanno allineati da qualche parte e vicino ad ognuno ci hanno scritto un numero e una lettera. M per gli uomini, F per le donne. La gente ci passa davanti, alza gli stracci che li ricoprono e guarda. Se qualcuno grida ne hanno riconosciuto un altro. Ma i cadaveri vogliono essere seppelliti, si sa, e se non lo fai si vendicano. In poco tempo l'aria è diventata irrespirabile che una puzza così non si era mai sentita. Hai voglia di buttarci sopra la formaldeide per rallentare la decomposizione ed evitare le malattie. C'è poco da fare. I cadaveri vogliono essere seppelliti, si sa. Ma le bare mancano. Sarà una delle ultime cose ad arrivare, anche in questo caso senza che si capisce niente. A Colliano ne arriveranno 50 e i morti sono 3. A Sant'Omenna 32 e i morti sono 100. A Lioni e a Sant'Angelo ce ne vorranno tante che bisognerà metterle lungo le strade una sopra l'altra. Ma nei primi giorni, se non hai 1 milione per comprarti una bara che costerebbe meno della metà, trovarne una è come vincere un terno all'otto. 89, 47 e 90, che i numeri non mentono mai, si sa. E se hai 2 figli piccoli, ti tocca una bara sola, che devi metterli dentro insieme. E poi devi stare attento che la tua bara non si mischi con le altre, come a te ora. Dove le casse sono segnate con un numero di riferimento, e i numeri non mentono mai, si sa. Mentre il nome collegato a quel numero è segnato su un elenco che sta in giro per il paese chissà dove. E allora che vuoi fare? Preghi su una barra sperando che sia quella giusta, e se è sbagliata ci penserà il Signore a rimettere le cose a posto, che almeno lui l'elenco ce l'ha di sicuro. Ah, ma per non sbagliare l'unica è scrivere il nome del morto sulla bara, che poi, quando pure il tuo morto è nella cassa giusta, manca il posto per seppellirlo. Se la tomba ce l'hai già, sei fortunato, ma se il tuo morto non è ancora nella cassa, devi correre a sederti dentro per occupare il posto. E c'è pure chi si è comprato subito i pochi spazi disponibili scavando la buca senza sapere nemmeno se i parenti sono vivi o morti. Che se sono morti la tomba è lì, e se sono vivi te la vendi. Che coi morti si fanno sempre buoni affari, si sa. Ma l'unica soluzione è scavare subito fosse comuni per tutti, e poi con calma. Ognuno si prenderà i suoi. La maggior parte di questi morti sono donne, vecchi e bambini, perché giovani adulti se ne erano andati via già da parecchio, che a casa si muore di fame prima che di terremoto. Francia, Argentina, Inghilterra, Belgio, Germania, che tanto! Non parlare il tedesco è lo stesso che non parlare l'italiano, ma è meglio sentirsi italiani all'estero che stranieri in Italia. I paesi si erano spopolati lentamente, in silenzio, per un terremoto senza crolli e lungo 100 anni, che tra il morire di fame e campare come bestie non c'è tanta differenza. Ma campare è sempre meglio che morire, si sa. E poi finché c'è vita c'è speranza, no? Che quello che hanno pensato i genitori della prima bambina nata dopo il terremoto a Muro Lucano, che l'hanno chiamata proprio così. Speranza, che quella che si erano portati dietro tutti quelli che se n'erano andati e che adesso stanno tornando a cercare i loro parenti. Sì, perché forse per loro non è arrivato nessun messaggio dalle radio che trasmettono nel mondo la voce dei vivi. Per mio fratello che sta in Argentina, noi siamo salvi ma Rosetta è morta. Avviso mia sorella che sta in Venezuela che la casa non c'è più. Mario, avverti i miei fratelli a Zurigo, di loro che ho trovato mamma e l'ho tirata fuori da solo. Pasquale era tornato a Calabritto dal New Jersey, dove faceva il sarto. Il terremoto gli ha portato via 2 bambini. Adesso se ne tornerà in America, ma prima si è fermato in piazza con un altoparlante a parlare. Compaesani, andate via, non sperate niente da nessuno, se restate qui vi faranno morire di fame e di freddo. Che è quello che pensano molti, che in tutti i paesi si organizzano delle assemblee pubbliche per decidere se partire o restare. E molti se ne vanno. Raggiungono un amico o un parente che può ospitarli per un po' in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, che tanto la strada la conoscono già. Giusto il tempo di tornare su quei mucchi di pietra che erano le loro case per recuperare una foto, una collana, una coperta, una padella, un pezzo di vita qualunque da portarsi via. Ci si attacca alle cose per non perdere il passato, che se lo perdi hai perso tutto, ma se lo porti con te, allora puoi farti dare dall'Italia un biglietto e andartene a Caracas, a Düsseldorf, a Bellinzona, dove posti come Laviano sono molto più conosciuti che in Italia. Biglietti di sola andata però, perché è meglio sentirsi italiani all'estero che stranieri in Italia. Se ne vanno, ma non come ha pensato Zamberletti, che Zamberletti vuole, Zamberletti dispone, si sa, ma fino a un certo punto, che con il piano S, dove S sta per sgombero, voleva subito allontanare 200.000 persone trasferendoli negli alberghi delle coste. Zamberletti pensava a 4 anni prima, quando in Friuli non ci aveva messo più di 36 ore per trasferire 50.000 terremotati sulle coste del Veneto. E 36 vuole mettercene pure stavolta. Ma solo che l'Irpinia non è il Friuli. E perché ci dovrebbero aiutare gratis se manco ci conoscono? Se ti dimentichi di uno per una vita intera e poi offri il tuo aiuto, che ti aspetti? E perché dovremmo abbandonare i posti dove siamo nati? Perché? Ma come perché? Ma perché sono posti fuori dalla storia e dalla geografia? Come si può desiderare di non abbandonarli? Ma come fate ad essere sempre così rassegnati? Siete voi che dovete cambiare le cose da soli! Questa è un'occasione storica per trasformare una tragedia in un'opportunità di ricostruzione e di sviluppo! Che certo è un bel modo di vedere un terremoto, non c'è che dire. Come potete desiderare di vivere in posti come Palomonte, dove l'acqua l'hanno portata con asini e barili fino al 16 luglio del 69, il giorno che l'uomo ha messo il piede sulla luna, che è stato un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità e pure per Palomonte. L'acqua, non la luna. Come potete desiderare di vivere in posti senza nemmeno un barbiere? Ci sono le nostre mogli. Senza un'edicola? E chi legge? Senza una bomba di benzina? E chi la tiene la macchina? Ah, vi va bene così allora? È questa la vita che volete? E allora perché sono 100 anni che andate via dalla vostra terra? Perché è meglio sentirsi italiani all'estero che stranieri in Italia. È una notte che cammino e anche soldi non ho più. Entro a letto piano piano, che dolce uragano sei tu. Le mutande tricolori le ho lasciate lì. Giovedì 27 arriva la neve, ma stavolta nemmeno i bambini sono felici. Venerdì entrano in azione le ruspe. Girano voci di persone ancora vive uccise dalle pale, di corpi fatti a pezzi. Voci e leggende ne girano parecchie, per la verità, che nascono come l'erba cattiva, che pure se nessuno la pianta ce n'è sempre in abbondanza. Si dice che le ragazze venute da Milano dormono con i ragazzi sotto la stessa tenda. Si dice gli italiani del nord che parlano lingue talmente strane che è meglio parlare con i tedeschi. Si parla di rapimenti di bambini venduti al miglior offerente, di coppie, di falsi terremotati che si presentano negli ospedali dove sono ricoverati gli orfani, scelgono il più bello e dicono che quello è figlio loro. La paura è tanta, la confusione è di più, dell'autorità non ci si fida che qua lo Stato non è venuto. Ma come? E i vigili del fuoco, i carabinieri, i soldati non sono pezzi dello Stato? No, quelli sono poveri cristi, qua lo Stato non è venuto. Ma qualcuno ancora vivo sotto le macerie c'è davvero, anche se l'ultima donna tirata fuori viva è una vecchietta di 91 anni di Santomenna che non era veramente sepolta. Al momento del terremoto lei si trovava in cantina, quando ha sentito tremare tutto di sopra ha pensato che era meglio restarsene lì sotto, che tanto c'erano pure pomodori e biscotti da mangiare. Dopo di lei però non ci saranno più miracoli. L'ultimo cristiano invece il terremoto se l'è preso a Caposele 6 giorni dopo, aveva 53 anni. Domenica 23, il figlio di 18 anni era andato ad Avellino con uno zio di Lioni a vedere la partita, che pure se l'Avellino di Vinicio era ultimo in Serie A c'era sempre tempo per recuperare, che nel calcio si vince e si perde, si sa. E infatti quella domenica aveva vinto l'Avellino e perso l'Ascoli, che ne aveva prese 4, e Juari aveva segnato il suo secondo gol in campionato. Grande Juari, eh? Che era stato nella storia che ogni volta che segnava andava a ballare la samba attorno alla bandierina. Che c'è chi resta nella storia per aver costruito un impero e chi per un balletto intorno alla bandierina, che è poi più o meno la stessa cosa. Dopo la partita, lo zio torna a casa sua, a Lioni, con il nipote. In serata vanno a prenderlo le due sorelle, la maggiore di 24 anni e la più piccola di 15. Il palazzo di Lioni crolla, muoiono tutti. La casa di Caposele resta in piedi. Sabato mattina, 6 giorni dopo, il padre seppellisce i 3 figli e poi si allontana. Torna a casa. Stacca dal muro la doppietta, va in camera alla gola e spara. Che nella vita si vince e si perde, si sa. Sostanzioso quanto indiscutibile successo di un Avellino armonioso e determinato a spese di un Ascoli che ha avuto nel reparto arretrato il suo tallone d'Achille. Ma una settimana dal terremoto la vita deve ricominciare, che chi è morto giace e chi è vivo non ha pace. Allora che faccia finta, ma adesso basta con miracoli, salvataggi, soccorsi. Le macerie conservano solo cadaveri adesso, come i canditi nel panettone. Solo che recuperarli tutti è impossibile, che molti sono troppo sotto e le macerie vanno sgomberate al più presto. Ma questi morti non sono come tutti quanti gli altri, quelli normali, quando la morte è solo un punto dove finisce la vita e magari ne comincia un'altra, no. Sono diversi. Sono un'accusa ai vivi, a quelli che si sono salvati. Perché io sono morto qua sotto e tu sei vivo là fuori? Tu non sei migliore di me e nemmeno peggiore. Perché io sì e tu no? Perché due palazzi uguali attaccati, uno cade e l'altro resta in piedi? Perché due paesi uguali attaccati, uno si fanno le crepe e l'altro è raso al suolo? Perché? I morti sono domande senza risposta. Ma una settimana dal terremoto la vita deve ricominciare. Allora via, forza, buttate via tutto, che chi è morto giace e chi è vivo cerca pace, che tanto ci si abitua a tutto, si sa. A tutto. Ma non a questo. Non al ricordo della prima notte, dell'uomo che gira da ore intorno alla casa crollata e poi si ferma e chiama la moglie che non risponde. Allora lui ricomincia a girare, poi si ferma e chiama la moglie che non risponde. E allora lui ricomincia a girare, poi si ferma e chiama. E ti prego, basta! Non vedi che tua moglie è morta? Ma nessuno gliel'ha detto questo. Che ci si abitua a tutto, si sa. ma non al ricordo della donna che ti afferra per il braccio e ti dice di andare dove prima c'era casa sua, che lì sotto c'è suo figlio e che forse si può ancora fare qualcosa. E come fai a dirle che non c'è niente da fare? Come fai a dirle che non è manco una pala, un piccone, una torcia, un martello, che pure se non serve a spostare le pietre lo puoi buttare per terra e bestemmiare? Come fai a dirle che tutto è inutile? Come fai a dirle che ognuno deve pensare ai suoi morti e ai suoi vivi? E allora non le dici proprio niente, perché non c'è niente da dire, che ci si abitua a tutto, si sa, a tutto. Ma non al ricordo di chi sta morendo davanti a te sotto ai tuoi occhi e ti guarda, che se ci avesse la forza ti parlerebbe pure, ma tanto pure così lo si capisce lo stesso quello che ti vuole dire. Aiutami. Questo ti vuole dire aiutami. E come fai? E come fai ad aiutarlo che non è manco un cerotto per chiudere il taglio che ti sei fatto alla faccia, che non è manco il tempo per tenergli la mano, che devi andare a cercare tua moglie, tue figlie, i tuoi genitori, che non sai manco se sono vivi o morti, e non sai manco se sei vivo o morto pure tu, che potresti già essere all'inferno, che l'inferno deve essere proprio così. Un posto pieno di fantasmi e di dolore. Ma non lo sai, non sai niente. E te ne vai e lo lasci lì, a morire da solo. E non fai in tempo a voltarti, che ne trovi un altro uguale a quello di prima, che hanno tutti gli stessi occhi. E quando ti siedi, che non ce la fa più a camminare su e giù per le macerie con le voci che ti afferrano per le caviglie e non ti lasciano andare, quando ti siedi, quelli ritornano da te tutti insieme e ti dicono: perché tu no? Perché tu no? Ecco allora. Ecco allora, perché tu no? Ecco, perché tu no? Ecco cos'era. Sei colpevole di essere vivo. E come potevamo andarcene? Come potevamo girare le spalle e abbandonare tutto? Siamo restati e abbiamo ricostruito tutto sulle macerie, con calma, che tanto la pazienza ce l'abbiamo sempre avuta. E abbiamo aspettato il primo Natale nelle roulotte, che ci davano un panettone intero se in famiglia eravamo 4 e mezzo se eravamo in 2. E il secondo Natale invece l'abbiamo aspettato nei prefabbricati, senza panettone però perché l'emergenza era finita. E abbiamo aspettato un altro Natale, un altro ancora per 10, 15, 20 anni, che tanto ci si abitua a tutto, si sa, pure a chiamare case 4 pareti di cartone, che i bambini non sapevano neppure come fosse fatta una vera casa, che quando ci siamo tornati a vivere nelle vere case abbiamo dovuto di nuovo imparare ad abitarci, che mangiavamo in garage perché le case ci parevano troppo belle per sporcarle. E abbiamo visto i nostri paesi riempirsi di Campi Genova, Campi Bergamo, Aree 15, Aree 18, e abbiamo dimenticato i vecchi nomi delle strade. E abbiamo visto quelli che erano venuti giù ad aiutarci tornarsene a casa loro e chiamarci parassiti, farabutti, incapaci, imbroglioni, che ci siamo mangiati 60.000 miliardi. E abbiamo visto fabbriche nuove spuntare come funghi e chiudere ancor prima di aprire in un sogno che non ci abbiamo mai creduto. E montagne tagliate in due da strade nuove di zecca, dritte, veloci, che le macchine che avevamo erano troppo lente per camminarci sopra. E abbiamo visto ridursi le distanze e aumentare la solitudine, avvicinarsi i paesi e allontanarsi le persone. E abbiamo visto i nostri figli crescere insieme ai nuovi quartieri, alle piazze, ai parcheggi, ai palazzi, ai negozi, ai supermercati, alle banche, ai centri commerciali. E abbiamo riempito le nostre case di telefonini, di computer, di videogiochi, di schermi piatti, di carte di credito, di fuoristrada e di cibo. Cibo, cibo, tantissimo cibo, che il ricordo della fame ce lo portiamo ancora nelle ossa. Il terremoto ci ha fatto la grazia. Siamo ripartiti da zero, che nessuno può mai ripartire da zero, ma noi sì. E abbiamo ricostruito tutto più grande, più ricco, più bello. E oggi, 30 anni dopo, ci guardiamo intorno e non sappiamo più dove siamo. E i vecchi guardano i giovani e non possono più dirgli: anch'io ero così alla tua età, perché l'età che hanno i giovani adesso loro non l'hanno mai avuta. E i giovani guardano i vecchi e gli fanno pena, poveracci, che il mondo è andato avanti senza aspettarli, ma loro no, non diventeranno come i nonni, loro se ne andranno via di qua prima possibile, senza portarsi dietro niente, nemmeno la voglia di tornare. E oggi, 30 anni dopo, abbiamo smesso di guardarci indietro, che prima del 23 novembre 1980 restano solo poche foto sbiadite che ogni tanto guardiamo e pensiamo: ma guarda dove sono stato tanti anni fa, che era un posto proprio strano, sai? La nostra vita è nel futuro adesso. Nei paesi che sono più giovani di noi, nelle strade disegnate con la squadra e col compasso larghe che ci passa un treno, dentro case bianche col giardino, la parabola sul tetto e vuote come ville a mare. La nostra vita è nel futuro adesso, in questo magnifico gioco del progresso che il terremoto ci ha regalato. Che in tutti i giochi si vince e si perde, si sa. Ma noi chi lo sa se abbiamo vinto o perso? Lo spettacolo Il fulmine nella terra, Irpinia 1980, scritto e diretto da Mirko Di Martino, con Orazio Cerino, aiuto regia Melissa di Genova. spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Valerio Bindi, uno dei curatori del Festival Crack, Fumetti Dirompenti, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 22 al 25 giugno 2023. Ben trovato! Ben trovato Federico, ben trovati tutti e tutte gli ascoltatori della radio di questa trasmissione. A che edizione siamo? Io ho perso il conto, io so che sono 18 anni dalla prima edizione, poi però abbiamo i buchi del Covid, le edizioni fantasma, le edizioni non fatte, insomma diciamo noi festeggiamo l'età. Spieghiamolo per chi non lo conoscesse cos'è. Crack è un meeting, è un incontro internazionale fra fumettisti dell'area dell'autoproduzione che sono esperti nello stamparti in proprio le cose. Perché ricordiamo, tutto il mondo dell'autoproduzione è legato a questa idea della fanzine, cioè l'idea di un oggetto che per quanto possa essere stampato da qualcuno e poi rilegato da qualcun altro e poi venduto ancora da un'altra persona, come nel mondo delle merci vere, comunque prevede sempre che l'autore ci metta le mani in qualche forma, in un qualche punto l'autore ha fatto delle cose concrete per far sì che questo oggetto venga su. Molto spesso l'ha direttamente stampato, se no se l'è trascinato in giro per festival. Il fatto sta che è una carta di scambio tra chi disegna, chi pensa, chi produce delle cose intorno all'arte disegnata e stampata e il pubblico. Quindi è una specie di luogo di comunità, di bene comune in cui si scambia qualcosa. Questi festival sono stati pensati e fatti per scambiarsi, per ritrovarsi, per conoscere le persone che sono innamorate dello stesso tipo di cose che ti mettono in moto il tuo processo creativo. Come sarà strutturata questa edizione? In genere le edizioni si dividono in trilogie. Abbiamo avuto nel corso del tempo diversi argomenti che abbiamo portato avanti per un periodo più o meno di 3 anni, perché succede che in genere quando un argomento si affronta in questo modo ci vuole tempo perché venga recepito, quindi non amiamo trovare dei temi usa e getta, ma cerchiamo in qualche modo di avere un filone su cui piano piano si riflette, si tirano fuori i contenuti. Quello da cui usciamo, insomma quello che abbiamo affrontato nei 3 anni precedenti, era l'argomento della decolonialità, cioè di come il fumetto sia, come tutto il resto delle attività culturali, pervaso dagli effetti del colonialismo e quindi come fare a comprenderli, dove trovarli e come liberarsene. Insomma questo era un po' l'oggetto. Questa trilogia ci ha portato a comprendere che il colonialismo è un fatto che resta profondamente penetrante dentro un po' tutte le nostre attività e quindi abbiamo cominciato a cercare in questa edizione, apriamo una nuova trilogia che è il rapporto tra colonialismo e il corpo e quello che siamo noi attraverso quello che mangiamo, attraverso come ci modificano le cose che si introducono nel nostro corpo. Quindi quest'anno partiamo col tema cannibale, do it yourself, cannibale mangiati però. Quindi non è il cannibale quello inventato, peraltro, perché i cannibali, a parte delle forme comunque testimoniate in maniera molto controversa, però probabilmente esistenti, di cannibalismo rituale, l'idea del cannibalismo è un'idea totalmente falsa, era buona solo per fare i film, i mondo movie degli anni 70. Il cannibale non esiste. E invece il cannibale che noi vogliamo un po' anche ispirati a una lotta che quest'anno è stata centrale nei media, nella discussione, che è stata la lotta di un anarchico che era imprigionato e che ha cominciato a mangiarsi, no? A nutrirsi di se stesso, a scioperare nutrendosi delle proprie fonti. Quella obiezione, cioè quella capacità di vivere di niente, è un'obiezione che obiettare a un meccanismo di costrizione è un tipo di obiezione che noi conosciamo bene, cioè tutto il mondo dell'autoproduzione campa di niente e si nutre delle proprie immagini. Quindi la prima mossa è questa: do it yourself, non nel senso in cui è scritto normalmente DIY, ma proprio do it nel senso dell'it, mangiati. Quindi quest'anno con questo punto di vista si svolgeranno le 4 giornate del festival, che è l'organizzazione tipica dell'evento, quindi è diviso in 4 giornate, in cui la prima giornata è quella del montaggio, quella in cui ti arriva, ti prendono le posizioni, chi viene a visitarci vede un festival nel momento del farsi. Poi abbiamo il venerdì e sabato che sono le giornate espanse e più anche faticose per gli espositori, ma più ricche per il pubblico, sia di giorno sia di notte, con delle offerte musicali, una programmazione continua, perché noi cominciamo dal pomeriggio e finiamo a notte le fonda. E poi c'è la domenica, che è un giorno invece un po' più di chill out, di relax, si fa il pomeriggio e la sera presto si chiude, si smonta tutto. Più o meno quanti sono gli artisti e le artiste che espongono? Sul sito ci sono circa 540-570 iscrizioni di artisti, il che vuol dire che alcuni sono artisti singoli, ma comunque non tengono il banchetto da soli, quindi sono sempre in genere accompagnati da un socio che è o un artista o proprio compagno, proprio compagno, l'amico. E poi ci sono tutti quanti i gruppi di 15-16 persone. Insomma, il rischio è che avremo un migliaio di artisti o collaboratori in giro per il Fortnite. Dal punto di vista musicale? Dal punto di vista musicale noi teniamo d'occhio anche lì un panorama il più possibile decolonialista da un po' di anni. Quindi ci sono delle presenze che hanno un significato fortemente politico. Penso per esempio quest'anno ai Fedi Munkasi, che è un trio di vocalisti G-Com, cioè la musica sudafricana nata in opposizione proprio all'apartheid, chiamata a essere cantata e suonata nelle manifestazioni e nei movimenti di protesti. Quindi è una musica che in qualche modo diventa un inno di protesta, insomma. Contemporaneamente, per esempio, il venerdì c'è invece sempre di questa area i Dope Gal, un gruppo di DJ africani, ugandesi, che pensano all'empoweramento femminile, quindi formano le artiste a diventare DJ in modo tale da poter attraversare come e quando vogliono i confini dei loro paesi per motivi artistici, per motivi anche economici, quindi comunque trovare una forma di lavoro che è anche una forma di apertura delle frontiere. Il tutto però è sicuramente accompagnato poi da un panorama anche molto ampio. Per esempio il giovedì c'è Tommy Tokyo, artista giapponese dei Group A, che ha fondato adesso un'esperienza sua personale chiamata Tonics, che suona insieme a Petrolio, quindi sarà una serata molto insegna della ricerca, della sperimentazione. Mentre invece la serata per danzare è il venerdì, dove ci sono le Dope Gal, ci sarà Desiree, c'è Hu, c'è Igino dall'altra parte, insomma ci sono più diversi offerti. Il sabato invece prevede più dei momenti live e concluderà comunque la sera del festival l'esibizione delle Clitox, che è un gruppo femminista determinato a combattere la società patriarcale anche attraverso il suono. La domenica, nel momento appunto del chill out, della situazione più tranquilla, tra il dub, le vibrazioni a farci tornare a casa. Tutto queste sono le voci più sensibili del festival, ma in realtà c'è una programmazione continua che coinvolge artisti che si alternano nei due palchi che ci sono ogni ora, ogni 40 minuti, insomma, quindi c'è un'offerta molto più ampia. Ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Il portale è crack.fortemestino.net, c'è una splash page da cui si accede a una lista degli anni dei siti e c'è poi il link, il primo link è quello al sito di quest'anno. Teniamo questa struttura perché dopo 20 anni sentiamo che comunque chi viene a cercare il sito di Crack lo viene a fare anche per fare le ricerche, cioè per capire quali erano gli autori che venivano, chi era venuto quell'altro anno, quegli autori che sono nel frattempo diventati super famosi, in che anno hanno cominciato. Quindi in questo modo c'è una schermata che permette a tutti di leggere la storia del festival. Festival Crack, fumetti dirompenti a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 22 al 25 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Valerio Bindi. A presto! A presto, grazie mille! Con Gloria Sapio, direttrice artistica della quarta edizione di Portraits on Stage, prende avvio la sua seconda parte Arte in Cammino dal 24 giugno al 4 agosto 2023. Ben trovata! Ben trovati anche voi, sta molto piacere questa chiacchierata con te. Raccontiamo cos'è Portraits on Stage e poi questa seconda parte. Sì, questa Arte in Cammino che riguarda più da vicino i territori del Cammino di San Benedetto ed è un festival multidisciplinare, quindi abbiamo danza, musica, teatro e per lo più noi agiamo nel corso del weekend. Poi ci sono altre attività anche dedicate al pubblico, dedicate al territorio, ma quelle avvengono magari in maniera infrasettimanale. Invece la parte legata proprio agli spettacoli è venerdì oppure venerdì, sabato e domenica o sabato e domenica, cercando di promuovere un flusso, diciamo, di visitatori, che ci sono dei musei, ci sono delle rocche, ci sono dei castelli, anche delle cose insolite come ad esempio il museo dell'Infiorata a Genzano oppure il museo delle scatole di latta. Il festival parla del rapporto tra arte figurativa e arte dal vivo, perché questi sono luoghi che appunto hanno avuto una cosa poco conosciuta, una grossa presenza di pittori, scultori, artisti visivi internazionali, tanto è vero lo spettacolo che noi realizziamo quest'anno, perché ogni anno realizziamo uno spettacolo noi, che siamo stanziali su questo territorio, uno spettacolo che riguarda una delle presenze che sono state ad Antico Ricordato. Quest'anno lo spettacolo è dedicato a Kokoschka, quindi stiamo parlando di un artista austriaco che è stato qua ad Antico Ricordato e ha lasciato un tale segno che addirittura c'è una zona che si chiama Gli Studi di Kokoschka. Gli Studi ed indica il luogo dove lui ha abitato qua ad Antico Ricordato. Si tratta di 17 spettacoli multidisciplinari. Sì, tutti in qualche maniera ovviamente incontrano il tema principale, quindi abbiamo degli spettacoli che, come per esempio quello degli Stalker, che presentano appunto queste specie di performance che poi diventano quasi delle installazioni viventi con l'aiuto del pubblico, quindi performing art, musica, e quindi sono spettacoli estremamente multidisciplinari. Il Teatro dei Cuticchio, che vengono dalla Sicilia per raccontare i loro punti siciliani, con un concerto, più Teatro dei Pupi, lo vedremo proiettato in un film che è stato realizzato apposta. Questo è uno spettacolo che è stato presentato al Quirinale anni fa, quando Cuticchio fece quella famosa mostra appunto sul suo Teatro dei Pupi, e quindi c'è questo concerto fatto dal figlio di Cuticchio, che è Giacomo, che è un musicista e che ha creato questa opera evocativa del mondo dei pupi. Poi abbiamo Ombre Bianche, che è uno spettacolo al quale teniamo molto, perché è uno spettacolo science specific che avrà luogo nel borgo antico di Antico Ricorrado. È tutta una camminata tra fantasmi, lo spettacolo si chiama Ombre Bianche, la leggenda del fantasma di Azzurrina, spettacolo, ripeto, pluripremiato di una compagnia giovane che è stato in tutta Europa. E poi abbiamo Versilia Danza con uno spettacolo, questo a Subiaco, al Teatro di Subiaco, su Egon Schiele, quindi un pittore raccontato attraverso la danza. Abbiamo uno spettacolo che mi incuriosisce molto, che è Blu dipinto, di Guascone Teatro, con Andrea Camerle, che racconta come, questo di per dire anche quella varietà dei temi, come vengono trattati, cioè anzi l'unico tema con quale varietà viene trattato. E in questo caso si parla di come Modugno prese ispirazione per la sua canzone da un dipinto di Chagall, una cosa che non tutti sanno. Poi abbiamo un spettacolo su Charlotte Salomon, una vicenda umana e artistica straziante, perché è stata nei campi di concentramento. Abbiamo un gruppo ucraino che insieme al nostro musicista Andrea Cauduro, riconosco perché abbiamo avuto una lunga collaborazione insieme, un musicista di musica contemporanea, loro sono degli artisti visivi e quindi creeranno questa performance, anche questa site specific, sulla loro storia, su come loro dall'Ucraina sono arrivati in Italia e hanno portato con loro il loro bagaglio di arte. Abbiamo Treno con Segantini, che è un altro spettacolo che parla appunto di Segantini, se lo porta Aria Teatro di Trento con musica dal vivo. Abbiamo L'imbarazzo dell'infinito, uno spettacolo per uno spettatore solo, di Officine Papage, cioè stabilire dei turni, e questo spettatore dialogherà con una specie di robot creato dall'uomo, che però è molto umano, e quindi tutta una riflessione anche sull'arte e la macchina. Cito ancora una cosa nostra, è uno spettacolo che mi sta nel cuore, e abbiamo realizzato perché abbiamo vinto il bando per nuove produzioni della Regione Lazio nel 2020 con questo progetto, ed è Giannino Stuppani in arte burrasca, dove c'è il Teatro d'Ombra, e fa parte di tutta una serie di spettacoli che sono dedicati alle famiglie e ai bambini, cioè noi cerchiamo di raccontare l'arte anche ai più piccoli, e in questo caso lo facciamo attraverso delle figurine di Teatro d'Ombre, che sono quelle ispirate ai disegni di Vamba che illustravano il libro originale del giornalino di Gian Burrasca. Gli spettacoli sono quasi tutti alle 21 e per ovviamente avere notizie conviene andare sul nostro sito, che è www.settimocielo.net. Arte in Cammino, seconda parte del Festival Portraits on Stage nelle valli dell'Aniene e del Giovenzano dal 24 giugno al 4 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Sarlo. A presto! Ma grazie a te, grazie mille. Valentina Solinas e Dario La Stella, curatori del libro Overlap, che sarà presentato a Roma, Zazzina e il Metrò, mercoledì 21 giugno 2023. Ben trovati. Ciao, ciao a tutti. Raccontiamo il progetto intanto Senza Confini di Pelle, che vi vede coinvolti. Senza Confini di Pelle è un progetto sulle arti performative, semplicemente possiamo dire una compagnia che nasce nel 2003 a Torino. Ci occupiamo di performing art appunto dal 2003 e ora abbiamo la sede a Sassari da 4 anni. Lavoriamo con progetti di formazione, con realizzazioni di spettacolo, progetti di produzione e con dei progetti multidisciplinari come per esempio il progetto Overlap, da cui poi nasce la pubblicazione. E allora passiamo ad Overlap. Overlap è appunto un progetto multidisciplinare internazionale che nasce da un'osservazione, cioè dal vedere come le rotte migratorie degli uomini e degli uccelli tra l'Africa e l'Europa coincidano. E da questa osservazione è nato un progetto che attraverso l'arte e la scienza vuole indagare i temi della migrazione, della biodiversità e della residenza come concetto a loro collegati. E questo progetto si sviluppa ormai da 4 anni e andrà avanti per degli altri anni e vede Senza Confini di Pelle come capofila di un partenariato di 23 soggetti nazionali e internazionali, tra cui l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, l'Università di Sassari come Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, l'Università di Cagliari come Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali e diverse associazioni che si occupano di spettacolo e di arti performative e anche MEDU, Medici per i Diritti Umani, che è un'associazione che ha sede a Roma, un'associazione medico-sanitaria appunto che si occupa del diritto alla sanità e che è un partner molto importante per il progetto, perché proprio osservando le mappe delle migrazioni umane stilate da MEDU che è nato il progetto. Come è articolato il libro? Il libro si articola in 3 sezioni che rispondono ai 3 focus del progetto, e cioè i temi della biodiversità, della biografia e dei confini. Il libro ha come contenuti gli articoli di 14 autori, che sono 14 persone che compongono il gruppo di lavoro di questo progetto, che appunto dicevo è un progetto multidisciplinare perché vede insieme lavorare a fianco artisti provenienti dalla danza, dal teatro, dalla fotografia, dalle arti visive e scienziati e quindi docenti universitari provenienti dall'urbanistica, dalla biologia, dall'ornitologia, lavorare insieme su questi temi appunto legati alla migrazione. E tutti hanno prodotto uno scritto che è dentro il libro, che racconta i primi 3 anni di questo progetto, che si è sviluppato attraverso dei laboratori nel Parco Nazionale dell'Asinara, sull'isola dell'Asinara, dove ogni anno teniamo dei laboratori residenziali per affrontare questi temi, dove appunto i scienziati e artisti lavorano insieme. Come si svilupperà prossimamente il progetto? Portando avanti ancora dei laboratori residenziali, ma vuole aprire a maggiori soggetti, sia nazionali sia internazionali, in modo da esportare questa metodologia che vede l'arte e la scienza dialogare, e quindi si stanno prendendo altri legami con università, con soggetti artistici di altri stati in Europa, perché già ricordiamo che tra gli altri partner del progetto, oltre a quelli che ho nominato, c'è la Francia, col centro coreografico di Nantes, c'è Oslo e il Living Theater di New York, perché 3 anni fa Tom Walker, il suo rappresentante, è venuto all'Asinara a tenere un laboratorio. E poi è nell'interesse del progetto quello di aprire al pubblico, infatti oltre alla ricerca, oltre alla scrittura di questi testi scientifici, il progetto produce degli spettacoli, una mostra di arte, dei video, delle videodanze che sono aperti al pubblico per coinvolgere sempre più persone su questi temi in una modalità che sia fruibile il più possibile. Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più? Sul nostro sito, che è www.senzaconfinidipelle.com, le pagine sia del progetto Overlap, sia del progetto Aismura, scritto Icemura, che è appunto il progetto della pubblicazione, perché Overlap è il primo volume di una collana di pubblicazioni scientifiche con una veste artistica. Poi esiste la nostra pagina Facebook Senza Confini di Pelle e anche Instagram Senza Confini di Pelle. Il libro Overlap, presentazione a Roma, Zazzin e il Metrò, mercoledì 21 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento ai curatori Valentina Solinas e Dario La Stella. A presto! Grazie, grazie a tutti, arrivederci, a presto. Ciao a tutti, grazie a te. Con Alessandro Fabrizi, direttore artistico della nona edizione della Festa di Teatro Ecologico Mondi Possibili, questo è il titolo dell'edizione 2023, a Stromboli dal 24 giugno al 3 luglio. Ben trovato! Ben trovato a te, è un piacere annuale ormai questo di incontrarsi per parlare della festa. Per chi non la conoscesse, descrivila. La Festa di Teatro Ecologico è nata esattamente 10 anni fa, nel 2013. Hai detto bene, nona edizione, perché la prima l'abbiamo chiamata edizione zero, però sono 10 anni, quest'anno festeggiamo 10 anni. E la sua caratteristica principale è quella che presentiamo incontri di teatro, musica, danza, ma anche divulgazione scientifica o letteraria o di cronaca, senza utilizzo di corrente elettrica per l'illuminazione e l'amplificazione. Quindi niente microfoni, niente impianti elettrici per diffondere la musica, tutto dal vivo, non amplificato, e illuminato da torce, candele, e quest'anno introduciamo i LED a pannello solare, che poi alla fine abbiamo scoperto effettivamente sono la cosa più ecologica, a quanto pare. Quindi Festa di Teatro Ecologico è questo, sono 9 giorni di intrattenimento, diffusione culturale, che creano appunto una proposta simbolico-poetica di risparmio energetico e rapporto con gli ambienti. Gli spettacoli si svolgono dovunque, non c'è un posto deputato teatrale, quindi rapporto con ambienti naturali o storici, di ascolto, di dialogo. Questa è la caratteristica. L'altra caratteristica, a cui hai accennato anche tu, è che ogni anno c'è un tema, quasi sempre intorno a un anniversario, e quest'anno la festa si chiama Mondi Possibili perché celebriamo l'anniversario di 3 figure molto diverse ma anche con dei tratti comuni, che sono Rocco Scotellaro, il più giovane sindaco di Tricarico d'Italia da 23 anni, morto giovanissimo nel 1953, grande visionario, appassionato di riforme, ha lavorato a una riforma agraria importante, nonché poeta e romanziere, e Italo Calvino, che è nato 100 anni fa, a cui dedicheremo una serata, in particolare alle città invisibili, e Wiesława Szymborska, la poetessa polacca, a cui dedicheremo una serata di poesia in polacco e in italiano. Quanti saranno gli eventi ospitati? A occhio e croce una 30, perché oltre appunto agli eventi, per esempio per il teatro, quest'anno stiamo lavorando a una produzione site specific, come si dice, cioè ambientata in un posto particolare all'aperto di La Minta di Tasso. Poi ci sarà Giuseppe Lanino, che presenta il suo monologo che si chiama La carne è debole. Ci saranno Carullo Minasi, che presenta un altro monologo che si chiama Umanità Nova. E ci sarà Ulderico Pesce, che presenta un suo lavoro dato su Rocco Scotellaro. Però poi, oltre agli spettacoli, alle letture, a uno spettacolo di danza che ci porta in dono Olimpia Fortuni, ci sono anche altre attività. Per esempio, Stefania Minciullo cura un progetto di visite in case strombolane, che si chiama Ogni Casa è un Mondo, in cui le persone si iscrivono e sono accolte in le case di qualche strombolano o di adozione o di nascita, gli racconta la storia di quella casa. Poi ci sono le attività di pulizia delle spiagge, di nuovo segno simbolico, noi passiamo un'oretta a pulire una spiaggia, tutti quanti, organizzatori, turisti e artisti. E c'è anche una cosa un po' particolare, un'esperienza sciamanica condotta da Corinna Ciulli con un tamburo, e anche questo sarà insomma in forma di laboratorio. E poi, come sai, la mattina le chiacchiere da bar, che ormai è un appuntamento molto frequentato, in cui gli artisti e il pubblico si incontrano intorno a un caffè o un cappuccino per chiacchierare di quello che è successo la sera prima. Una particolarità di quest'anno è che il periodo della festa si interseca con un altro festival, che è un festival di danza, che si chiama Marosi, e un altro festival di danza che invece è un festival proprio di tango, che vengono più o meno nello stesso periodo, per cui con Marosi abbiamo organizzato un concerto per pianoforte in un bellissimo giardino che si chiama Il Vulcano nel Bosco, e con il festival Stromboli Tango abbiamo organizzato una serata al Teatro Eos, e sarà aperta appunto da un gruppo di giovani attori diplomati a Teatro Azione a Roma, che sono venuti qui per partecipare al seminario per voce e testo e che presenteranno un loro studio sui testi che Borges ha scritto sul tango. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Il programma lo trovate sul sito della festa, festaditeatroecologico.com. Però basta scrivere Festa di Teatro Ecologico e si trova, e lì appunto nella tendina menu edizione 2013 è possibile caricare il programma. E poi naturalmente potete trovare informazioni sulla pagina Facebook, su Instagram, ci sono continui aggiornamenti di varie cose che succedono. Nona edizione della Festa di Teatro Ecologico, Mondi Possibili, il titolo dell'edizione di quest'anno, a Stromboli dal 24 giugno al 3 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Fabrizi. A presto! Grazie a te, a presto, grazie a te. Con Pablito Eldrito, autore del libro Senza chiedere permesso, flyer e immagini del rave. Ben trovato. Ciao Federico, un saluto agli amici di Onda Rotta, ovviamente. Nuova avventura editoriale, dici un po'. In effetti questa è la sesta avventura editoriale e quindi ci siamo sentiti già tante volte, per Once Were Ravers, che era il primo romanzo, per Rave in Italy che avevamo presentato, poi per diversamente Pusher, per Dalla parte del torto, per lo pezzo della droga, e ora c'è questo Senza chiedere permesso, che è un libro di storia che raccoglie flyer dei rave italiani dal 1993 al 2003, raccoglie flyer di quel decennio, ovviamente non tutti perché sarebbero stati oltre 1000, ma una selezione, 350 circa flyer. E in più questo è un libro che nel suo interno ha anche delle variazioni sul tema del rave, cioè ci sono 21 capitoli che parlano del rave da vari punti di vista, da un punto di vista storico, da un punto di vista della continuità delle controculture, anche tramite dei memoir, una sorta di autoetnografia che mette insieme un po' i miei ricordi e altri saggi di carattere più urbanistico anche. E poi c'è tutta una riflessione sull'estetica del rave. Noi pensiamo al rave e ci immaginiamo direttamente un'industria e la gente vestita in un certo modo che fa certe cose. Ecco, questi primi flyer a cui mi riferisco invece dovevano anticipare a persone che praticamente erano ignare di quello che era un rave lo scenario in cui si sarebbero ritrovati se avessero accettato l'invito al rave, cioè se fossero entrati nell'interzona. E in questo senso ci sono una serie di capitoli in cui parlo di tutti i prodotti culturali o anche diciamo di movimento che possono aver influenzato l'estetica rave, per cui c'è tutta una lunga riflessione sulla cyberpunk, sia sotto forma di film, che sotto forma di zin, che sotto forma di libro, che sotto forma di fumetto, che sotto forma di qualsiasi altro prodotto culturale. E poi alla fine c'è anche un capitolo che raccoglie le testimonianze di molti di questi flyeristi che ho avuto modo di intervistare, tra cui anche alcuni romani, penso sia al giro Kernel Panic, sia al giro legato più a Draftus e legato a tutta l'esperienza di Ostia. Com'era nata l'idea? Quasi un anno fa arriva un ragazzo che fa da ambasciatore per un editore d'arte e mi dice: sarebbe molto bello fare un libro sui flyer. Io gli dico: guarda, io ne ho raccolti negli anni più di 1000. E lui dice: cavolo, che bello, fammene vedere alcuni. Comincio a vederli e allora da lì comincio a fare una selezione, perché alcuni erano doppi, alcuni erano in bassa definizione, altri troppo rovinati. E comincio a datarli, quindi a dire: questo è nel 93, questo è il 94, il 95, che non è un'operazione semplice perché in alcuni di questi non c'è una data, quindi bisogna fare delle indagini. Poi da lì il mio editore abituale, Marco Filopat, che appunto poi ha pubblicato in effetti questo libro, mi ha detto: scrivi però anche qualcosa. Io ho cominciato a scrivere queste 21 variazioni sul tema del rave. L'idea era farne un'edizione d'arte un po' più patinata, è un'edizione più accessibile, diciamo, più proletaria in sostanza, con Agente X, poi l'altro editore non si è più visto né sentito, noi abbiamo pubblicato tutto e via. Tra l'altro tutto è in Creative Commons, quindi può essere diffuso liberamente e come tutti gli altri libri di Agente X, e quindi basta che non ci sia una fine di lucro e può essere diffuso in tutti i canali non profit. Per quanto riguarda la stagione degli illegal rave, che comincia proprio in quel periodo, 93-94, ci sono artisti e artiste che hanno curato la grafica, che curavano tra l'altro anche quella degli spazi occupati autogestiti, che hanno dato anche un segno estetico. Certo, molti di questi realizzatori di flyer provenivano da situazioni sociali, e non solo a Roma, perché ho fatto riferimento prima appunto a Spazio Camino, piuttosto che al Draftus, piuttosto che ai ragazzi di Carne in Panica che avevano come base il Forte Prenestino, ma anche in altre città d'Italia c'è questa stessa dinamica. Non possiamo dire che tutti i raver fossero dei centri sociali, però possiamo dire che molti giovani frequentatori e militanti dei centri sociali hanno contribuito a creare questo immaginario rave e a politicizzarlo, ovviamente, perché se io scorro il libro vedo alcuni guarantini, soprattutto quelli romani, quelli al Draftus, ma anche quelli dei ragazzi di Osse e Spazio Camino, insomma, frasi come ricordati che stai commettendo un reato, effigi come quella del subcomandante Marcos, o comunque delle dichiarazioni proprio di diritto alla festa, ma anche diritto ad altro, perché chiaramente si parla di diritto alla festa, ma anche diritto alla casa, al lavoro, alla dignità, a un reddito più che al lavoro in realtà. Ecco, c'è stata questa forte contaminazione tra i due ambienti che appunto ha portato all'ala più politicizzata del rave. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? La cosa migliore che potete fare è andare sul sito di Agente X, che è www.agentex.it. Lì trovate tutti i libri in catalogo, anche il mio, senza chiedere permesso, flyer immaginari del rave, e lì dentro trovate l'abstract, potete comprare direttamente da lì il libro. Poi sul sito avete anche a disposizione il calendario degli eventi, sia dei miei eventi, sia di tutti gli altri eventi di presentazione, dei fratelli, dei compagni, degli amici che lavorano con Agente X. Il libro Senza chiedere permesso, flyer e immaginari del rave. Un saluto e un ringraziamento all'autore Pablito Eldrito. A presto! Grazie compagni, grazie, grazie. Ciao, a presto! Con Andrea Del Favero, direttore artistico di Folkest, International Folk Music Festival, in Friuli Venezia Giulia, dal 15 giugno al 3 luglio 2023, ben trovato. Ben trovati a voi. Che cos'è questo festival? È nato nel 1979 come festival delle istanze culturali delle minoranze etnico-linguistiche d'Europa. Da lì si è allargato poi a tutto quanto fosse in qualche modo collegato alla musica di tradizione orale, ciò che oggi chiamiamo più comunemente world music. È un festival di world music, il più grosso numericamente festival di world music in Italia in questo momento. A che edizione siamo? Siamo alla 45esima quest'anno, abbiamo dei bei numeri perché abbiamo 49 tra gruppi e artisti, oltre 50 appuntamenti live, tocchiamo 25 diversi comuni con un programma che parte dal 15 di giugno e va a finire il grosso degli appuntamenti il 3 luglio e poi abbiamo un pochino di appuntamenti sparsi a Udine, nell'Istria slovena, quindi sconfiniamo, andiamo di là del confine in Slovenia. Come era nato? Noi, come molti ragazzi della nostra generazione, ragazzi di allora chiaramente, non di oggi, avevamo una radio a San Daniele del Friuli, una radio di informazione che trattava tematiche musicali. Allora c'era una musica, c'era la musica bella, c'era la musica ribelle, c'erano tante cose interessanti. E da questo gruppo che gestiva la radio nacque l'idea di creare anche un festival. Era il momento per noi dell'immediato dopo terremoto del Friuli, fece un migliaio di morti nel 1976, ma soprattutto scosse un po' le coscienze di tutti quanti e ci fece un po' rendere conto che sarebbe stato bello lavorare sulle radici e lavorare sulle reti di conoscenza con altre realtà simili alla nostra in tutta Europa. Questo abbiamo cercato di fare, poi pian piano è chiaro che si è allargato il concetto di world music dentro oggi. Porta da Bob Dylan a Jethro Tull, da Mike Oldfield a ragazzi giovani come i Mellow Wood, che sono le nuove piccole grandi star del reggae in Europa adesso. In questo senso, com'è la scelta artistica? Abbiamo sempre mantenuto dritta la barra su artisti che si sono interessati alla musica di tradizione orale e alla sua contaminazione. Soprattutto ci interessa la contaminazione, ma anche parlando di grandi artisti, alcuni li ho citati prima, sono tutti quanti musicisti, cantanti o gruppi musicali che in qualche modo hanno dei legami molto forti. Se io dico John Baez o Dylan o lo stesso Stevie Winwood, chiaramente sono musicisti che hanno preso a piene mani dalla musica popolare. Come saranno articolati gli eventi lungo tutti questi comuni? Avremo tutta una serie di appuntamenti in posti molto belli, perché la nostra scelta è sempre stata di andare esclusivamente in piccoli borghi antichi, in castelli, in ville, corti rustiche, dove siamo costretti anche a costruire ogni sera scenograficamente lo spettacolo in maniera non invasiva, con le attrezzature tecniche, anche in posti storici, quindi rispettando molto i luoghi dove andiamo ad operare. Al momento centrale di tutto questo ci sarà una 4 giorni a San Daniele del Friuli, che tra l'altro è il posto che ha visto la nascita del festival. Da lì ci spostammo a Stilimbergo, quest'anno rientriamo, e rientriamo soprattutto in un progetto di collaborazione con l'amministrazione comunale di San Daniele e con il consorzio del prosciutto di San Daniele, per fare un festival delle eccellenze nel Friuli Venezia Giulia, dove ci saremo noi per la parte culturale, ci sarà il consorzio del prosciutto che lavorerà anche con talk su slow food, su tutte queste tematiche, e il consorzio del Montasio. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? www.folkest.com. 45esima edizione del Folkest International Folk Music Festival in Friuli Venezia Giulia dal 15 giugno al 3 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Del Favero. A presto! Vi aspettiamo a San Daniele! È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana, soprattutto teatro, ma anche eventi culturali. Ben trovato Simone Nebbia di Teatro e Critica, che ci darà alcune indicazioni. Ciao a tutti e buon pomeriggio, andiamo a vedere cosa ci offre la settimana teatrale, e io partirei, come di consueto, dal nostro Teatro Torbella Monaca, che offre questa settimana una carrellata di spettacoli, tutti facenti parte di una rassegna che si chiama Libero Teatro in un teatro libero, ed è l'associazione Unione Italiana Libero Teatro che presenta questa rassegna, insomma, e vado a leggere. L'Unione Italiana Libero Teatro è una rete organizzata a livello nazionale e regionale di associazioni accomunate nella passione unica del teatro, che ciascuna sviluppa con la propria identità e modalità. Così ci dice Stefania Zuccari, che è la presidentessa di questo WILT, Unione Italiana Libero Teatro, e insomma la rassegna che già va avanti da un bel po' e andrà avanti anche a settembre, a dire il vero, offre appunto un po' di produzioni scelte tra i vari associati a questa associazione. Ora, quello che un po' mi inquieta è che, stando alla presentazione, è praticamente teatro, non è che c'è sto granché, insomma, l'associazione mette insieme le compagnie che fanno teatro, insomma, quindi l'associazione, come mille altre produzioni possibili, non mi sembra che ci sia qualcosa di particolare, almeno non è dichiarato qui, ma noi comunque ce l'andiamo a vedere a Torbella Monaca, perché già questa sera si comincia alle 21 con uno spettacolo di Giovanna Paterni che si chiama E gli sposi. Si tratta di un matrimonio in cui non si presentano né la sposa né lo sposo, e quindi in qualche modo le donne invitate a questo matrimonio si trovano a parlare del perché ci si trova così. Insomma, ci sono vari spettacoli, segnalo un paio di cose del weekend, non so, cioè, vedendo le schede, sono tantissimi attori, non so, all'aria di qualcosa di amatoriale, ma non è segnalato, quindi io non dico oltre. Segnalo giusto appunto che durante il weekend vedremo sabato e domenica un dittico da Edoardo De Filippo, Le voci di dentro, e poi il sindaco del Rione Sanità, entrambi con la firma, la regia di Angelo Grieco. Per quanto riguarda invece poi altri appuntamenti che mi fa piacere segnalare, sono ben pochi a dire il vero, perché insomma la settimana non offre tantissimo, però intanto voglio segnalare che da questo weekend, 24 giugno, tra il Teatro India e il Teatro di Villa Torlonia, con appunto il Teatro di Roma, torna Circo Infest, cioè l'arrivo a Roma tramite il circo Il Gritto di spettacoli di arte circense, clownerie, acrobazie e giocoleria, che appunto il Circo Gritto organizza questo festival di circo contemporaneo che si svilupperà in questi due teatri. Sarà posto uno chapiteau all'interno del Teatro India per appunto tutta la durata del festival, dal 24 giugno al 23 di luglio. Quindi si comincia con questo prossimo weekend e precisamente un viaggio, come prima cosa, un viaggio all'interno del circo, ma anche del potere della musica, con Johann Sebastian Circus, verso alla musica, del personaggio Johann Sebastian Bach. 24 e 25 giugno Bach torna a adeguarsi alle nuove sonorità e obbliga un clown equilibrista, un acrobata e un musicista multistrumentista a dei numeri un po' strambi e pericolari. Questo è quello che avrà modo di iniziare il festival del circo contemporaneo, che però andrà avanti poi nelle prossime settimane, ne parleremo ulteriormente. Poi altra cosa che segnalo, non un'altra, l'altra cosa che segnalo è che comincia questa sera il festival di danza fuori programma, il Festival Internazionale di Danza Contemporanea, all'ottava edizione, diretta anche quest'anno da Valentina Marini, e con quattro spazi da oggi fino al 7 di luglio, che sono Teatro India, Castel Sant'Angelo, Teatro Biblioteca Quarticciolo e il Parco di Suor Tre Teste. Questi quattro spazi vedranno spettacoli, residenze, incontri, workshop, progetti speciali. Prende il nome questa edizione di Unisono a più voci, e il festival inizierà appunto con un paio di spettacoli. Questa sera tocca Jacopo Godani, che aprirà con il proprio spettacolo, adesso ne parleremo, fino poi al progetto di Silvia Gribaudi, tra specifiche, che chiuderà il festival, ma ne parleremo poi. Insomma, ci saranno un bel po' di cose. Andiamo a vedere poi il programma nel dettaglio. Appunto, Jacopo Godani, coreografo e danzatore, questa sera in prima nazionale all'Arena del Teatro India presenta la sua nuova produzione che si chiama Symptoms of Development per la Dresden Frankfurt Dance Company. E lo spettacolo è appunto un spettacolo di danza, una coreografia che però ha un taglio umoristico, satirico, insomma, siamo in una sorta di laboratorio scientifico in cui si possono analizzare le origini e le connessioni di ogni movimento, esplorando così le potenzialità che sono proprie di un corpo. Proprio nel Teatro India domani vedremo uno dei protagonisti della nuova danza italiana internazionale, cioè Daniele Minarello, che insieme al produttore musicale e artista visivo Saverio Lanza e alla cantautrice rock indipendente Cristina Donà presenta L'Universo nella Testa, questo progetto che insomma mescola dei linguaggi performativi indagando la forza di gravità della danza e l'oscillazione tra quello che è l'essere umano e lo spazio infinito del cosmo. Quindi molto interessante questa commissione. Procediamo nel programma. 22, ossia dopodomani, presenta un doppio appuntamento con sempre Teatro India, Briefing Room di Salvo Lombardo, una performance che chiama un artista diverso o diversa, e che questa volta prevede il coinvolgimento di Marta Ciappi, una grande coreografa e danzatrice italiana. Al centro c'è il respiro, appunto Breathing Room, come atto poetico da cui nasce una performance che si determina in tempo reale, senza anteprime, senza prove, senza repliche, appunto in quel momento. E poi seguirà appunto un'altra coreografia, ma questa volta con Andrea Costanzo Martini, Mood Shifters, ed è la prima delle produzioni, tante produzioni israeliane, la danza israeliana è molto attiva, ospitate dal festival quest'anno, e parte dal concetto di mimica emotiva attraverso cui possiamo scoprire l'altro da noi. Ecco, ci saranno tre performer in scena, alla ricerca dell'intimità, dell'amore e del riconoscimento appunto dell'altro, quindi sarà un spettacolo relazionale sicuramente. Si chiude questa settimana con il 23 di giugno, sono due performance a chiudere la settimana, intanto una prima assoluta sempre all'Arena del Teatro India, cioè l'istituzione della residenza curata da Ophir Kunesh, coreografo emergente con in collaborazione con il Susan dell'Al Center di Tel Aviv, e poi si va avanti con Lior Tavori che presenta la coreografia Maas, che è una coreografia intima per quattro danzatori che cerca di riflettere sul tema della mascolinità, sulle note di artisti iconici come Queen e altri che andremo a scoprire. Quindi questa settimana è una settimana sicuramente di circo e di danza, diciamo il teatro di prosa si prende una settimana di pausa, o comunque ti ricordo che non la prosa ma un lavoro sempre molto mescolato con linguaggi diversi, è in scena ancora fino al 25 giugno a mano sinistra di Industria Indipendente, sempre al Teatro India, da non sottovalutare. E poi ricordo, Federico, il nostro, ormai così, il nostro appuntamento di venerdì 23 giugno con la Libreria Lavoni, che in chiusura, come sempre ci piace fare, alle 18.30 presenterà a Monteverde via Zambarelli 25, per Sotto la Magnolia, Incontri Letterari, presenterà con l'autore Tommaso Di Francesco, con il direttore del Manifesto, due libri, entrambi editi nel 2021, che si chiamano A Contendere e l'altro Ina e Ludwig. Beh, insomma, A Contendere è un titolo che entra in relazione con la genealogia poetica dell'autore e si sviluppa attraverso un'origine poetica. Provenire dalla poesia per uno scrittore è in qualche modo un po' una sorta di scotto da pagare, quindi chissà Tommaso Di Francesco come si è trovato in questo passaggio, mentre invece Ina e Ludwig è il racconto di una storia, a tutti gli effetti, un romanzo, una pagina di diario, diremmo così, insomma, nelle campagne romane, nella prima guerra mondiale, ed è un incontro, il racconto di un incontro tra una bambina, la sua fragilità e la disabilità, tutti la chiamano Ina, e quella di Ludwig, che è un militare austriaco prigioniero che appunto in trasparenza lascia intravedere la figura del filosofo Ludwig Wittgenstein, che fu proprio catturato sul fronte di Trento alla fine del 1918 dalle truppe italiane. Questo per quanto riguarda Sotto la Magnolia, e con questo direi che è tutto. Segnalo che Asterios pubblica entrambi i libri, chi devo essere cercare, si trovano tranquillamente in rete, e questo è tutto. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.